è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù. Ha il calore che tu davi a me e mi illudo di stare in braccio a te. Insomma, ci chiedevamo, ma sti comunisti oramai non sono più un pericolo, non ce ne sono più, perché se D'Alema si fa vedere a St. Moritz pieno di cashmere dalla testa ai piedi, ma ci sono ancora i comunisti, presidente? Ci sono, esistono, e come? Ah, no! Sai, mia cara, sono tanto solo. Ma dove sono andati a finire? Tutti a St. Moritz. Guardi, direttore, non è un cashmere che può cambiare il cervello e il cuore della gente. I nostri post-comunisti fanno finta di aver abitato su Marte per anni, visto che dicono addirittura di non essere mai stati comunisti, ma non hanno mai fatto i conti con il loro passato e con gli orrori di una ideologia spaventosa, l'ideologia, ricordiamocelo sempre, più disumana e criminale della storia dell'uomo, che ha prodotto solo miseria, solo disperazione. Avete sentito Berlusconi con Signorini ieri sera, caro Parenzo? Eccoci. Come stai? Una cosa terribile proprio. La canzone non l'hai riconosciuta, però. Il pullover di Gianni Meccia. Una roba calda, io non sapevo nemmeno che fosse, me l'hanno detto, sì, è chiaro, sono ignorante come una capra. L'hai proposta, quindi voglio dire. Certo. E il direttore del giornale Sallusti, sempre sulla questione del cashmere. Ah, no, sì, qui ci sono tutti i direttori, sono. Hai sentito Signorini, Sallusti, eccetera. Via. Questo paese, che se fosse così in ginocchio, il leader della sinistra non si permetterebbe di andare a passeggiare a Champagne a St. Moritz. E mi illudo di stare in braccio. C'è una punta di verità in quello che dice, Sallusti, una punta, no. Una sì. No. Sì, poi ne discutiamo. Polemica abominevole, una polemica del cashmere proprio, fammelo dire, una polemica del cashmere proprio. Feltri scatenato, se Berlusconi va al Quirinale pieno di escort, sentite. Senti, è spettacolare. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Io non mi auguro che sia Berlusconi, perché immaginatevi cosa succederebbe. Perché le escort al Quirinale sarebbe una cosa... Cioè, tu ipotizzi i corazzieri nudi che rincorrono le escort. Sì, ci farebbero un film lì, Boldi, De Sica. Con gli occhi... E non ti lascio. Spettacolare intervistatore Marino Bartoletti. Tra l'altro, oggi su Libero in prima pagina, leggo una cosa di questo tipo che mi ha fatto pensare sul nuovo corso di Libero. C'è un fondo firmato Dragonera. Che secondo me potrebbe essere lo stesso Feltri, ma non so, non ne sono sicuro, magari no. E la conclusione è questa: se proprio è vero, come dice il Cavaliere, l'ho detto ieri da Signorini, di non averne mai avuta una di sinistra, di donne, almeno una tra le vagonate di donne a sua disposizione, non può che esserci una spiegazione. Senti, è su Libero. Con tutte le zoccole che ci stanno a destra non ha ancora completato il giro. Ripeto, questa è la frase, è sul prima pagina di Libero, giornale, non è che è l'Unità. Con tutte le zoccole che ci stanno a destra non ha ancora completato il giro. Non so, la scrittura, devo dire, mi ricorda un po' quella del direttore Feltri. È una roba pazzesca, ripeto, prima pagina di Libero, con tutte le zoccole. Con tutte le zoccole che ci stanno a destra non ha ancora completato il giro. Vabbè. Intanto a Padova accade questo. Ho inventato una ricetta cinese, però con tutto prodotto italiano. Allora mio amico Luca Zaia, lui è contento, allora è venuto a trovarmi. Si definisce leghista e amico del governatore del Veneto, Uli Shuang. E infatti la sera di Capodanno, Zai era a cena proprio nel suo ristorante cinese, uno dei più noti della regione. Nulla di male, se non fosse per la clamorosa protesta di una decina di ristoratori padovani che, appresa la notizia, scrivono una lettera di fuoco alla loro associazione di categoria, al Mattino di Padova e allo stesso Zai, nella quale si dicono sorpresi e disgustati dalla scelta del governatore, strenuo difensore del Made in Italy, che sembra invece ora trasformarsi in testimonial della cucina orientale da 10 euro a pasto. Una persona che ha preso le difese dei il coltivatori. E siamo qui, hai sentito che accade a Padova, l'impensabile, l'impensabile. Accade di tutto. Governatore Zaia, che mi combina? Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Non le hanno fatto male? Che cos'era? Innanzitutto specifichiamo, cos'era? Sushi, cinese, involtini, cos'era? Specifichiamo innanzitutto che non sono andato a Padova, che non era l'ultimo dell'anno, ma era il primo dell'anno, alle 7 di sera, e tutti erano chiusi in giro. Cos'era? Cadone, capesso, che mi devi dire che erano chiusi, non ci credo. Qualcuno sarà stato aperto, qualche ristorante padovano. Guardi, anche le posso dire di più, che gli stessi ristoratori poi hanno confermato di aver avuto informazioni sbagliate. Si tratta di Treviso e sono tornato in un locale che ho inaugurato 5 anni fa, e da 5 anni che non c'entravo più sono andato a vedere come funzionava. Allora, questa qua è un'informazione importante. Lei dice, innanzitutto, non è Padova. No, non c'entra niente Padova. Dunque i ristoratori padovani si sono arrabbiati a sproposito. Perché hanno letto male i giornali, ma infatti lo hanno anche riconosciuto. Loro addirittura avevano capito che io sono andato a fare il veglione di fine anno. Non sì. c'entra niente. Invece era a Treviso. Ma sì, il fine anno me lo sono fatto con amici a Cotechino, Baccalà, Picche. Invece il primo dell'anno è andato in questo ristorante che si chiama Wok Sushi. Come si chiama? Wok Sushi. Peraltro, guardi, devo anche dirla una cosa, che pensavo fosse vuoto, perché il clima era da day after per le strade alle 7 di sera. Invece era strapieno di ragazzi, avrà avuto almeno 400 ragazzi. C'erano pure i fotografi, come al solito, vabbè. Beh, guardi, non li ho chiamati io, anche perché il ristoratore ha confermato. Se voi aveste modo di andare in quel ristorante, avreste modo di vedere una parete piena di foto di autorità che sono passate di lì. Sì, no, se ma questo non è organizzato, non è colpa mia se è organizzato. No, per carità. Senta, ma la cosa però, io l'avevo chiesto all'inizio, ma che ha mangiato esattamente? Me lo può dire? Ma guardi, riso, anche perché in questi locali ho sentito dei ristoratori che hanno detto: ma come si fa a far mangiare la gente e spendere così poco? Allora, quella sera si è speso 19,50 euro più bibite, è un self-service, quindi ristoratore ha avuto la furbizia di fare una cucina a vista, per cui togliendo tutte le aree negative rispetto a chissà cosa mi cucineranno, ma alla fine il piatto tipico di questi ristoranti è il riso e le verdure, quindi far riso e verdure a 19,50 euro lo vedo molto vantaggioso per l'imprenditore, se permette. No, ma questo non c'è dubbio, ma glielo dico perché qualche ristoratore dice: come si fa da mangiare a 19,50 euro? No, ma quello lo sappiamo, che i ristoranti, non solo quelli cinesi, ogni tanto fanno i menù oppure i self-service oppure quello che... Ma non è questo, le polemiche da questo punto di vista sono sbagliate, come credo che sia sbagliato da parte di un gruppo di ristoratori dire perché non frequenta i ristoranti padovani. Ma io li frequento perché non sono un frequentatore di locali, tant'è vero che ci sono andato 5 anni fa, ma la verità è un'altra, che questo ristoratore è da 24 anni in Italia, ha 3 figli nati qui che parlano veneto, studiano qui, ma soprattutto ricordiamo, ha gestito per 15 anni il Bar Borsa di Padova. Nel suo locale cinese l'aperitivo di benvenuto è lo spritz, cioè, tanto per capire. Ed è un suo grande lettore, però questo bisogna dirlo. È uno di quelli che è suo simpatizzante, è uno dei 64 su 100 veneti che ci vota. Senta, Zaia, però in tutto questo discorso che non fa una grinza, si possono fare alcune considerazioni. La prima è questa: lei è considerato un campione del Made in Italy, uno di quello che si batte per i prodotti locali, cioè più volte ha detto, adesso le faccio ascoltare una cosa, anche a proposito dei prodotti che vengono dalla Cina, di non essere un grande estimatore. Per esempio, non mi ricordo a quando risale questa frase, però sentiamola. Via. Ma io non mi pongo più problema perché non ci vado proprio nei ristoranti cinesi. E beh, insomma, invece ci è andato. Ma guardi, è l'assoluta verità, ci sono andato dopo 5 anni, ma mi lasci anche dire che questo ristorante ha fatto gli accordi con i nostri agricoltori, per cui è tutta materia prima dei nostri agricoltori. Allora, senta, bisogna bastonare ma anche valorizzare chi poi fa serio. È un cinese chilometro zero praticamente. Ma di fatto sì, David, buon anno fra l'altro. Buon anno, governatore. È perché poi Davide è mezzo padovano, molto probabilmente lui lo conosce meglio di me. No, no, io non vado, il cinese proprio il rivoltino primavera è una roba che proprio non mi piace. No, io sì, non... io sì invece, io ci vado spessissimo. No, io... no, rivoltino primavera, no, a me ti piace il giapponese perché sono un vero no, doppio. Io tutti e due, io vado, no, ho no, scoperto... No, no, il rivoltino primavera lo detesto, l'avevo no, detto per legge il rivoltino primavera. Fa anche sushi, quindi fa anche piatti giapponesi, però... Anche il gelato fritto lo odio, il gelato fritto, si va a fare un gelato ma fritto? Ma il gelato, dire la verità, dai, non lo fa fritto, ma ha fatto un accordo con un gelatiere artigianale di Villorba, quindi serve il gelato gelatiere artigianale di Villorba. Ma senta, lei quella sera che ha mangiato, al di là del riso e della verdura che ma mi ha guardi, detto? Ma guardi, i piatti che lì si possono tutto, degustare tutto. Il riso alla cantonese, il riso con i gamberi, il riso con le verdure. Cioè, vabbè, adesso non mi dica, l'involtino, l'involtino l'ha mangiato, su. Adesso, vabbè, l'involtino è immancabile, fa parte dell'aperitivo. Il po', pure il po', il famoso po', com'era quello che si mangiava sempre 15-20 anni fa, il pollo alle mandorle, l'ha mangiato? No, no, quelle cose lì non le ha portate, cioè ha portato solo il riso con più varianti, ma senza carne. Senta, però, all'inizio mi ha detto una cosa, governatore, io sono andato lì perché tutti gli altri erano chiusi, beh, questa è una stupidaggine, però. No, no, io le ho detto a Treviso saranno tutti... Non è una giustificazione, mi creda, non è una giustificazione. Cioè, a me sinceramente cadono le braccia, anche perché sapere, e penso che la cronaca lo può confermare, tutto quello che ho fatto e sto facendo per la tutela dei prodotti tipici, quanto ci ho lavorato, che ci siano sinceramente 6 ristoratori che fra l'altro non mettono in dubbio il mio operato, perché il famoso disgustoso lo dicono al giornale, perché loro accusano il giornale di aver pubblicato prima di Natale 2 pagine sui cibi e sui pranzi low cost, citando i cinesi. Sì. Quindi anche qui c'è stata fatta ad arte una polemica contro di me, ma se lei vedesse la lettera, è praticamente tutta contro il giornale. Sì, no, ho letto una cosa, invitiamo il governatore Zaia a frequentare pure i nostri locali, assieme al calore familiare e eleganti tavoli, i nostri mensite e non self-service, il governatore troverà e degusterà vini e cibi con prodotti della nostra meravigliosa agricoltura, di quella terra che è anche la sua, con accattivanti ricette non di importazione. Qui c'è un po' di snobismo nei confronti della cucina cinese, questo non c'è dubbio. Questa è una partita tra imprenditori e se la vedono loro. No, ma certo, però i ristoratori veneti oggi hanno l'amarone di OCG, il prosecco di OCG, la tutela di moltissimi prodotti, il radicchio rosso di Treviso, la Spar, lo devono a me, quindi se ne stiano buoni. Senta, però governatore, c'è un punto, lei si è sempre presentato come una persona amante della cucina autarchica. Oggi in un pezzo un po' graffiante nei suoi confronti su Repubblica, Francesco Merlo ricorda alcune frasi, per esempio quando lei era a favore dello spumante, abbassa lo champagne, nelle cucine leghiste si preparava, le disse una volta, il kebab padano, con un nome addirittura, il muntunna fetà, eccetera eccetera. Trovarla e vederla in un ristorante cinese è un po' una contraddizione dal punto di vista dell'immagine, quello lo deve riconoscere o no? No, perché le confermo che sono andato a inaugurarlo 5 anni fa questo ristorante, non ho mai fatto mistero e ci tornerei, visto e considerato che è l'unico cinese che ha avuto il coraggio di fare gli accordi con i nostri agricoltori. Il senso delle istituzioni è quello di far consumare i prodotti dei propri territori, non di fare le battaglie che non portano a nulla. Però anche sul boicottaggio, per esempio, del latte cinese, qualche tempo fa lei disse quella famosa frase: io non mi pongo il problema, nei ristoranti cinesi non ci sono mai andate. Anche a proposito degli spaghetti, per esempio, non è che fu tenero nei confronti dei cinesi, no? Sugli spaghetti, sentiamo un attimo, abbiamo anche questo, perché sentiamo, via. Prego. Spieghiamo ai cinesi che gli spaghetti non si rompono. You have to learn that spaghetti. Don't break the spaghetti. Okay. Insomma, il punto, Zai, è molto semplice. Se uno si presenta dal punto di vista politico come il campione del prodotto italiano e ogni tanto dà anche qualche sferzata ai cinesi, poi trovarlo in un ristorante cinese fa un certo effetto, o no? Beh, diciamo che Epifania non avete nulla di cui occuparvi, perché se no questa roba sarebbe veramente... Aspetti, adesso ci occupiamo di Tremonti, un attimo solo, completiamo questa cosa. Insomma, è un po' una contraddizione o no? No, lei non ci trova nessuna contraddizione. Ha detto: io dai cinesi non ci vado mai, gli spaghetti non li sanno fare. Ma è la verità, glielo confermo, non ho nessun problema a dirlo. Cruciani, vedi, è così come io difendo il Massimo D'Alema, che con il suo Kashmir è andato a St. Moritz, non ci vedo nulla di male. Così, secondo me, rebus sic stantibus, il governatore Zaia va a mangiarsi e rivoltare. No, ma figura, io sto giocando su questa cosa. Dico però anche che il mondo mi si è rivoltato in 2 giorni. Ho visto D'Alema in foto a St. Moritz con tanto di sciarpe e con la moglie sorridente, e Zaia che mi manda in un ristorante cinese abbracciato ai proprietari cinesi, che per carità, è tutto finito. Traffico, torniamo a parlare di politica. La zanzara. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù, Senta presidente, ma dica una cosa, no? Cioè, indagando nei suoi peccati di gioventù, no? Ma dico, si sa che lei è un Latin lover, un bon vivant. Quando era giovane, non so, qualche tresca con qualche donna di sinistra incontrata in una sezione, non ce l'ha mai avuta Berlusconi? Mai, posso giurarlo. No, veramente? Che portavi tu? Vabbè, devo dire che qui la cosa più interessante in realtà in questa vicenda signorini Berlusconi non sono le risposte di Berlusconi, sono le domande di signorini. Le trovo eccezionali. Cioè, lei è stato un Latin lover, un bon vivant, eccetera. Non so se è al presente o al passato, però lo diceva signorini. In questo momento mi sfugge. È stato. E lei è mai stato con una donna di sinistra, signor Zaia? Io non rispondo neanche a questo, anche perché guardi, io ogni cosa che dico poi va a finire sui giornali per una settimana. Appunto, sì. me la farei fare solo da signorini questa domanda. Vabbè, ho capito. È come solo da signorini. È come se l'avesse fatta lui. No, io per esempio che ho dichiarato ieri di essere stato un anticomunista di ferro, io non conto nulla, eccetera, eccetera. Comunque non sono certamente uno che è nato in una cultura di sinistra, sono stato con un sacco di donne di sinistra, insomma. No, sai qual è? Però, vabbè, insomma, la verità è un'altra, che noi amministratori purtroppo, in virtù, e sì, mi perdoni se non le ho risposto a questa domanda, no, perché per una piccolissima parentesi seria, cioè noi amministratori, se continuiamo a dare fiato a tutti questi argomenti, a rispondere a queste domande, poi facciamo... No, questo va bene, però non vada da signorini allora. Che ci occupiamo solo di questo. Benissimo, però non vada da signorini. 30.000 disoccupati in Veneto dei quali mi voglio occupare. Però non vada da signorini e poi rispondere a queste domande. Però. No, ma comunque Alfonso è un grande, bisogno di dire. Su questo, la notizia è che Zaia ha mangiato il moltino, ma non da signorini, questo è il punto vero della domanda. Come no, ha detto che è un grande. Vabbè, ma oggi leggo sul libro che ma no, un'altra cosa però, i comunisti, questa serie, esistono come dice Berlusconi ancora oppure no, Zaia? Questo seriamente lo dico. Guarda, io condivido la riflessione con il massimo rispetto per le idee di ognuno. Il fatto è che comunque ci sono, cioè questa è la sublimazione anche della democrazia. È scandaloso che poi cerchino di fare anche i liberali, perché comunque le dottrine socialiste contro il libero mercato, contro il peso e la presenza dello Stato oltre ogni misura sul mercato Capito, ma dove stanno oggi questi comunisti? Cioè, ci sono d'accordo in politica quelli che ancora si dichiarano comunisti? Ci sono tante persone di sinistra che io rispetto che hanno idee totalmente diverse dalle mie, ad esempio hanno delle idee rispetto alle riforme che stiamo facendo che io non condivido. Vabbè, quelli mica sono comunisti però. No, guardi, cioè, con le riforme abbiamo avuto un sacco di problemi con chi comunque si dichiara di sinistra, basterebbe leggere i commenti. No, però io voglio capire una cosa, quando Berlusconi dice che i comunisti lo vogliono fare fuori, secondo lei ha ragione o ha torto? Beh, fa parte del gioco, no? C'è la destra e la sinistra e il Parlamento è sostanzialmente la sede dello scontro. Immagino che Berlusconi intenda quando dice mi vogliono far fuori, cioè politicamente. Sì, no, gli eredi diciamo del Partito Comunista. Ma lo usa nella concezione come sinonimo di totalitarismo, no? Cioè lo dice come crimine e come gente che è portata al crimine e al totalitarismo. In questa accezione la usa Berlusconi, secondo me sbagliando. Senta Zaia, ma sarà la Lega, come dice Calderoli oggi anche in un'intervista al Libro, a staccare la spina al governo alla fine? Guardi, noi siamo al governo per portare a casa il federalismo fiscale e l'autonomia. Questo paese, peraltro, se non fa questa scelta, lo dice il capo dello Stato, che dice che il federalismo non è più una scelta ma una necessità, va veramente su un binario morto. Non è che abbiamo altre scelte. Nel nostro statuto c'è scritto il primo punto e la Lega esiste per il federalismo, poi tutti ne prendano altro. Vabbè, entro gennaio però mi sembra un out, e passano alcune cose entro gennaio oppure... Ma guardi, cioè, sarebbe difficile spiegarlo comunque ai cittadini. I cittadini hanno dei cicli di vita che sono di gran lunga molto più frenetici di quelli della politica. Noi ci dobbiamo vergognare per i tempi che abbiamo. Mi creda, c'è la vera battaglia contro i tempi della politica, della burocrazia. La gente ne ha le tasche piene. Ma Tremonti, secondo lei, qual è il... Perché Parenzo, la situazione è anche questa. Oggi... molti scrivono che Tremonti ha un'agenda politica completamente diversa da quella di Berlusconi, no, cioè punta ad altre cose perché altrimenti resta. Poi Bossi dice che in realtà Tremonti non lo tradirà mai. Secondo lei esiste la lealtà in politica, Zé? Cioè, è vero che Tremonti non tradirà mai Berlusconi oppure è più vicino alla Lega? Guardi, io le posso dire che il ministro Tremonti ha fatto la differenza, me lo lasci dire visto e considerato che per 2 anni sono stato in Consiglio dei Ministri. Cioè noi abbiamo, prima della crisi, della grande crisi, l'Italia era considerata lo Stato fanalino di coda in Europa. Oggi l'Italia è nel club dei grandi stati europei che hanno affrontato la crisi con tonicità, facendo anche delle prove muscolari non poco evidenti. Direi che Tremonti ha segnato il passo, è sicuramente l'uomo che ha fatto la differenza, e la sublimazione ne è uscita con la presenza del Presidente del Consiglio, che ha curato i rapporti internazionali in maniera eccezionale, perché poi comunque la credibilità di questo paese si deve al lavoro di questo governo. Cioè, dopo Berlusconi c'è solo Tremonti, secondo voi? Secondo lei? Guardi, innanzitutto stiamo discutendo un governo che c'è, io non sono abituato a discutere dal dopo. No, no, ma dopo, se lei deve immaginare un dopo Berlusconi, vede solo Tremonti oppure Alfano, per esempio, che viene presentato come nuovo leader di una futura formazione politica che si chiamerà Forze Popolari, ne parleremo dopo le 7. Zaia, tra Tremonti e Alfano, sì, scusi, era andato... No, guardi, io penso che debbano decidere i cittadini, spero anche che si possa fare in modo che, rispettando Rousseau fino in fondo, i cittadini possano scegliersi il Presidente del Consiglio, i parlamentari e tutti. Dunque? Dunque, lasciamolo decidere i cittadini. Vabbè, tra gli ossi e il cinese, tra gli ossi e il cinese è inutile. Sono andato anche alla cena degli ossi, bravo. Pure andato alla cena, non me lo ricordavo più. È andato alla cena degli ossi. Vabbè, comunque tra gli ossi e il cinese non c'è paragone, no? Meglio gli ossi. La cucina tipica, meglio gli ossi, veneta, no? Me lo lasci dire con una punta di orgoglio. Comunque le cucine tipiche regionali non hanno nulla da invidiare alla cucina cinese. Questo è poco, ma sicuro. Beh, nulla da invidiare. Immagino che lei le consideri più, no? Più le consideri migliori della cucina cinese o no? No, sono eccezionali, non hanno proprio nulla da invidiare, nel senso che sono eccezionali, anche perché abbiamo 4.751 prodotti tipici che sono sostanzialmente dei presidi identitari, quindi ben venga la cucina tipica, andate a mangiare il prodotto tipico, soprattutto aiutate i vostri agricoltori. Senta Borghezio cosa ha detto dell'Italia, del ruolo dell'Italia nella vicenda Battisti, perché Borghezio è reduce da Exploit qui su queste frequenze, Radio 24. Esploa spaventosi. Aspetti che ritroviamo la frase. Borghezio qui a Radio 24 sul ruolo dell'Italia nella vicenda di Battisti. No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. Detto sempre Zaia, con tutto il rispetto, con massimo tutta rispetto, con massimo aveva rispetto. Aveva detto autorità penali, però, obiettivamente. Come, scusi? Aveva detto autorità penali, per cui ci stava. Cioè, le autorità penali quali sono? Ma che ne so, le autorità penali. Il tribunale sarà molto. Vabbè, lei un po' l'ambulanza la chiamerebbe in questo caso, oppure no? No, no, il povero. Le autorità penali, sì. Le autorità penali per Borghezio, però, per Borghezio, lei dice. Vabbè. Come, per Borghezio, no? La vicenda di Battisti ci lascia allibiti. No, no, certo, autorità penali per Borghezio, però in questo caso, insomma, magari... No, è la foga, la foga. Del... La foga, però è vero che magari non abbiamo... È il giorno della Befana, lasciamo. Grazie Zaia, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Va bene, insomma, si è capito che insomma, nei confronti di questa frase di Borghezio, Zaia non impazziva di gioia, insomma. Però, rimasto però, abbastanza freddino, no, ecco, però devo dire la verità, questa frase di Borghezio, che pure è una frase molto pesante eccetera eccetera, contiene anche qui un pizzico di verità, perché questa vicenda di Battisti è stata gestita dal punto di vista istituzionale non in maniera proprio magnifica, e insomma alla fine certo non si può dire come afferma Borghezio, e però Raffaele da Brindisi, ma in fondo infatti è vero, contava di più l'Italia con Craxi e Sigonella, ad esempio contava molto di più nello scacchiere internazionale. Non lo so Raffaele da Brindisi. Raffaele, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Niente, io di politica ne capisco poco, però da quello che ho imparato da ascoltando Silvio Berlusconi ho capito che i comunisti sono da quelle persone che denigrano gli avversari, parlano a sproposito nei confronti degli altri eccetera. Mi domando, ma quello che fa Berlusconi tutti i giorni contro le persone che incontra e che non la pensano come lui, che cosa fa lui? Non fa la stessa cosa? Mi sa tanto che è proprio lui il primo comunista in Italia, visto che ha marchiato i comunisti come quelle persone che denigrano. Denigra la magistratura, ad esempio il caso Bindi, invece di rispondergli, gli disse: lei è molto più intelligente di quanto è molto più bella di quanto è intelligente. Allora, adesso cosa c'entra col comunismo in questo caso? Lei dice perché il più comunista di tutti è Berlusconi. Denigra le persone, cioè lui attacca in continuazione tutto quello che va contro, cioè attribuisce ai comunisti caratteristiche che sono anche sue, lei dice. Ma no, le atto tutti i giorni, perché se i comunisti sono quelle persone che mistificano, che fanno le stesse cose le fa Berlusconi, secondo lei. D'accordo, Raffaele, grazie. Antonio da Latina, buonasera. Buonasera. Tutto dica, bene, sì. Tutto bene, dica pure. Niente, sono stato a mangiare a Roma, un ristorante cinese, ho mangiato la cosa alla vaccinara, meravigliosa. In che senso la cosa alla vaccinara? Dal cinese. Ma come fa a essere ristorante cinese con il chilometro zero? Non esiste, voglio dire. Sono delle stupidaggini, c'è il ristorante cinese perché usa dei prodotti e della una cucina cinese. Ma secondo Zaia questo ristorante dove ha mangiato non era un ristorante che utilizzava... Cioè, almeno... non era un ristorante cinese, lo voleva gestire in cinese, ma non era un ristorante. Vabbè, no, comunque... Mattino primavera con i prodotti dell'orto locale, che ne so. Ecco, bravo Parenzo. Allora facciamo la coda alla vaccinara dal cinese, ma non vabbè, è una cosa diversa comunque. Vabbè, Antonio, lasciamo... perché la coda alla vaccinara non è un prodotto cinese, insomma, questa è la differenza. Ma nemmeno il prodotto dell'orto di Zaia è un prodotto cinese. Vabbè, Antonio, comunque mi sembra una discussione. Non me ne frega nulla. No, io volevo soltanto dire una cosa. Io ho avuto la fortuna di conoscere D'Alema. Sì. Quando il papà di Berlusconi, che io assolutamente rispetto perché è stato molto bravo, quando il papà di D'Alema faceva il deputato, sì, il papà di Berlusconi faceva il deputato in banca, quindi non è che D'Alema era un morto di fame. E beh, allora che c'entra questo, scusi Antonio? No, perché se ti mette il cashmere, benissimo, se D'Alema mette il cashmere, se lo può permettere, sia perché il papà faceva il deputato quando il papà di Berlusconi faceva il deputato in banca. Impiegatuccio di banca, non è che sia una cosa, lei lo dice impiegatuccio di banca come se fosse una cosa disdicevole rispetto al deputato, abbia pazienza, non è proprio così, ma devo dare la linea al giornale radio, ci sentiamo dopo, 800 24 0024. Eccoci, 19:16, 800 24 0024, dal Granducato di Toscana, David Parenzo, buonasera. È così, buonasera direttorissimo. Marcello da Bologna, Matteo da Milano, Antonio dalla provincia di Bergamo, sono lì in attesa insieme ad altri, sempre 800 24 0024. Andiamo subito dritti ai titoli del TG3. La crisi economica non è ancora finita, il ministro Tremonti smorza i facili entusiasmi e attacca. Aiutati banche e speculatori. La Russa, sono stato informato tardi sullo scontro a fuoco in cui è morto l'alpino Miotto. Il ministro arrabbiato con i vertici militari. Il presidente della CEI Bagnasco chiede all'Europa impegno a tutela della libertà religiosa. Frattini al TG3, promuoverò un'azione comune. Nodo rappresentanza, la CGIL cerca una soluzione. E a Torino conto alla rovescia per il referendum su Mirafiori. Oggi in piazza le ragioni del no. Il governo cerca i voti sul federalismo e riapre la caccia ai parlamentari. Dura reazione del terzo polo, i centristi. Sconcertante il toto acquisti. Un anno fa la rivolta degli immigrati di Rosarno. Nei vicoli della città ancora degrado ed emarginazione. Domani, grande manifestazione a Reggio Calabria. È una bestemmia in diretta al Grande Fratello, ma gli autori decidono di non espellere dal reality il concorrente. Dura critica del Quotidiano dei Vescovi. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Come dimenticare, caro Parenzo, l'espoir ieri sera di Bruno Berardi, presidente dell'Associazione Civitas per la difesa delle vittime del terrorismo, scatenato contro Carla Bruni. Risentiamo, siamo tutto orecchi. Nella storia della radio, nella storia. Via. Ecco la bugiarda, è una bugiarda spudorata. Ecco, lo dico io perché adesso mi sono offeso proprio per questa faccenda qua. Mi ha dato pure un numero di cellulare fasullo. Dice, questo è il mio numero di cellulare, quando vuole mi può chiamare, tutte queste cose qua. Invece poi quando ho provato a chiamare non risultava un bel niente. C'è uno studio mega galattico dove c'era la Temerità. C'erano tutte le porte a trabocchetto, quelle diciamo come si usava una volta nel Medioevo, e quelle porte diciamo a muro dove non si vedono le porte, però nello studio di Carla Bruni c'erano le porte normali, però i muri erano in alcuni anfratti erano camuffati da Porte a trabocchi. Dopo mie insistenze, sì, alla fine ha detto: guardi, che lei davanti al presidente Lula si è espressa con queste testuali parole, diciamo, di intervenire a favore di queste due persone perché sono perseguitate dalla giustizia italiana ingiustamente. Queste sono le parole. Mm. Io l'ho fatto perché sono sicura che Battisti è innocente. Pronto? Buonasera, sono Carla Bruni, di signor Berardi. Io ho detto: mi stanno prendendo in giro questi qua. Mi è venuta spontanea di dire: io sono Giulio Cesare. E quello: pronto, buonasera, sono Carla Bruni, mi dispiace quello che è successo. Oui, je suis Carla Bruni. La macchina è alla sua disposizione. Mi raccomando, signor Berardi, per la nostra amicizia, voi amicizia di che? Cioè, di non dire niente ai giornalisti perché sennò la mia posizione potrebbe essere compromessa. Chouchou, chachou. E vabbè, questo è Bruno Berardi ieri sera alla Zanzara. I giornalisti, non parlavo ai giornalisti. Spettacolare. 800 24 00 24. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? A Siena, no? A Siena, no, magari. Magari devi venire una volta, qui c'è il Palio, sei una città medievale. Lo so che c'è il Palio, ti accoglie a braccio aperte, fino a questa città. Anche a me, come dire, anticomunista di ferro, Siena, sei sicuro? Sì. Come? Sì, no, no, parlano tutti te qui. No, no, ma ti vogliono a braccio aperte. Allora, tu sai perché Berlusconi potrebbe, non è ancora sicuro, aver scelto il nome Popolari per sostituire quello che lui considera ormai un nome usurato, vecchio. Sì, ho letto queste indiscrezioni. Se fosse questa la scelta, sarebbe, come dire, debolissima, perché voleva far evocare sogni, emozioni. No, non disse questo. Tu l'avevi fatto ascoltare qualche settimana fa. No, c'è una novità. C'è una novità. Ah. C'è una novità. Attenzione. Incredibile ma vero, potrebbe essere stato suggerito a nonno Silvio da uno dei suoi nipotini. No. Sì, sì. Questo da uno buono, dei suoi nipotini. Attenzione, da uno dei suoi nipotini, l'ispirazione per il nuovo nome l'avrebbe presa da un nipotino che segue il mondo di Patti. Tua figlia sa cos'è il mondo di Patti? No. Lo scrive Tommaso Labate oggi su Riformista. Trattasi di una seguitissima serie TV argentina per bambini sopra i 10 anni, di cui Mediaset possiede i diritti per la trasmissione delle repliche. Nella fiction a sfondo musicale si assiste alla sfida continua tra due fazioni, le popolari contro le divine. Le popolari vincono sempre. Popolari come quelle del mondo di una Patti che non è la da Dario. Popolari perché piacciono a fanciulli che hanno genitori e lettori under 45. E popolari perché agganciano anche la tradizione del PPE. Hai capito? Ma forse il nipotino voleva dire popò, invece lì ha sentito popolari. Insomma, il nome popolari verrebbe. Ma è un nome debolissimo. Da uno dei nipotini di Berlusconi e. Fosse vero, sarebbe splendido comunque. Splendido, eh. Sentiamo. Chi sarà la squadra vincitrice? Se volete far vincere le divine, dovete votare le divine. È semplice, no? E se volete che vincano le popolari, allo stesso modo ovviamente dovete votare le popolari, quindi la sfida è tra le divine e le popolari. Signore e signori, questa è la decisione del pubblico! Rappresenteranno la scuola! La Pretty Land School of Arts! Al concorso interscolastico di musical! Tenetevi forte! Le popolari! Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare, ronzio. L'estate 82, Scirea, le tette di mia zia, da cui vedevo il mare verticale. Beh, insomma, se fosse davvero così, le popolari che battono le divine, il nipotino che suggerisce a Berlusconi il nome per il nuovo partito, sarebbe molto meglio del predellino, diciamo la verità. Molto meglio del predellino. Più fresco, non so come dire, più vero, più familista almeno. E però a me sembra, credo che su questo siamo d'accordo, ancora un nome che non scalda. Per carità, Berlusconi da questo punto di vista è imbattibile, non si può dire nulla, Però non scalda, non so, non dopo scalda. Forza Italia, scalda. Per forza, è difficile trovare una, cioè Forza Italia è per forza... Sì, dopo però Forza Italia, il PDL è stata una delusione, adesso Popolari, ma non lo so, mi sembra un nome vecchio, una roba vecchia, i Popolari, mi ricorda Martinazzoli, capito? Martinazzoli. Sì, Don Sturzo, queste cose qui. Martinazzoli, capito? Vabbè, povero avvocato Martinazzoli, poverino. No, però è il simbolo di qualcosa, della morte, della democrazia cristiana. I Popolari, capito? Una roba, mi ricorda Castagnetti, perché con tutto il rispetto, mi ricorda un mondo che non c'è più, no, Castagnetti, per carità. Jerry White, le lotte tra questi qua per il nome Popolari, c'è una roba di una tristezza infinita. Feltri, Feltri, votano Berlusconi gli italiani perché vedono cosa c'è a sinistra, un Feltri scatenato a Cortina d'Ampezzo, via. Ma perché deve votare una sinistra così cialtrona, ciabattona? No, la votano. Ah, sì, si rassegnano a votare Berlusconi, ti rendi conto? Uno non voterebbe mai Berlusconi, ma 25 anni fa nessuno avrebbe votato Berlusconi. Poi però abbiamo sperimentato la sinistra e Berlusconi ci sembra la Madonna Pellegrina. E io lo voto. Mezzo. Guarda che ci sono, in questo periodo c'è un Tana libera tutti, c'è sì, un, sì, no, siamo a briglie sciolte, che ora ci, si diverte, di capito? Fronte a noi ci sono mesi in cui ci divertiremo come matti. Per il Tana libera tutti è la cosa più vera proprio, hai colto un'analisi politica perfetta. Allora, del pane bianco, della Tana libera tutti, non esagerare. Un editoriale, no, è perfetto. E intanto Povia, che stai sentendo, anche lui evoca le zanzare. No, Povia non mi piace. Beh, Luca no, era gay, ma adesso bellissimo, sta con lei, bellissimo. Ma che vuol dire? Ma che felicità. Felicità. Feltri ha visto Fassino in televisione e sentiamo. La sinistra, se non vince, impazzisce. E infatti è impazzita, basta guardarli in faccia. Ho visto Fassino qualche sera fa in televisione. Io ho chiamato la Croce Rossa, infermieri, andate. Cioè, è terribile. Vabbè, insomma, adesso non è che. Non solo da ieri sera, insomma, in realtà se uno vede Fassino è sempre un po' emaciato, insomma, sempre un po'. Ma cosa gli è successo? Non lo so, è impazzito, Feltri. Senti ancora, il problema della sinistra non è che Berlusconi scopa, ma che non vincono, guarda, è proprio. Un virgolettato proprio. Sì, ma senti. La cosa che fa imbestialire la sinistra non è che Berlusconi abbia la moquette sulla testa, che abbia le escort. Cioè, il fatto che Berlusconi scopi e loro no è secondario. Il vero problema è che la presenza di Berlusconi impedisce alla sinistra di vincere. Ti ha detto che è spettacolare. E poi facciamo risentire diciamo il cult assoluto. Direi il cult a questo punto. Berlusconi al Quirinale. E Feltri dice: per carità, ma vi immaginate i corazzieri a correre dietro alle vignotte? Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Io non mi auguro che sia Berlusconi, perché immaginatevi cosa succederebbe. Perché le escort al Quirinale sarebbe una cosa. Cioè, tu ipotizzi i corazzieri nudi che rincorrono i corazzieri. Sì, ci farebbero un film lì, Boldi, De Sica. Riuscivamo a far l'amore in volo. Che scomodità, ma che felicità. Che scomodità, ma che felicità. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. In trans, anche se mi fa schifo un po', tu dance. Io dirigo qualche giornale, due, e guardando le foto che sono, mi arrivano ogni mattina sulla scrivania, mi ha subito colpito una foto particolare, delle foto particolari che adesso vi mostro. Guardate un po' queste immagini. Ecco, l'avete riconosciuto? Sapete chi è questo signore? Qualcuno lo riconosce? È Massimo D'Alema, il signore del PD, del Partito Democratico, Mister PD. Sapete dove stava? Allora, pensavate, naturalmente in montagna, no? Lo vediamo qua tutto pieno di cashmere da capo a piedi. Allora io dico, ma sapete dove stava? Non so, stava al Mottarone? No! Stava al Terminillo? No! Stava a Pescasseroli? No! E avete ragione, sapete dove stava? A St. Moritz. Allora, io mi chiedo, no? Vedendo queste immagini. Le tette di mia zia. Beh, insomma, devo dire una cosa. Oggi Vittorio Sgarbi sul giornale scrive, naturalmente non critica D'Alema per essere andato a St. Moritz mentre il mondo è dipinto dai post-comunisti o dagli eredi del Partito Comunista, insomma dal Partito Democratico, un mondo di disgrazie con l'Italia, la fame, eccetera, eccetera. Non lo critica per questo. Dice, poteva scegliere una località un pizzico più o meno in vista, no? Però, insomma, devo dire che su questo non lo so. Polemica inutile, poi inutile, ma però ci sta la polemica, bene. Però la polemica no, ci no, sta. No, non ci sta per niente, no, ci sta nell'epoca, nell'epoca truce nella quale no, viviamo. Non è vero, nella non, è vero, non è vero, non è vero. No, non no, è vero. No, gliene frega, no, è una cosa talmente Sallusti, stupida. Se la crisi fosse vera non passeggerebbe a Semore, cioè se uno dice che l'Italia è alla fame, tu che sei il capo di un partito dell'opposizione non vai a St. Moritz. Io la voglio buttare giù dura da questo punto di vista. Ma abbi pazienza. Se dici che l'Italia la gente non arriva alla fine del mese, che è una vergogna, il governo non fa niente, vai sorridente a St. Moritz a sciare a passeggiare. Mamma mia, ma 4 giorni a St. Moritz, ma cosa sarà mai? No, a parte che a St. Moritz l'unica 15 giorni doveva starci a St. Moritz. L'unica considerazione, perché si può fare, non andava in montagna, no, l'unica considerazione nel Gran Paradiso con la yacht, Togliatti. L'unica considerazione che si può fare è che a St. Moritz ormai, diciamo, nei dintorni di St. Moritz sono alberghi anche a 3 stelle, insomma c'è una varietà di prezzi notevole. Devo dare la linea però alla borsa 800 24 00 24. La zanzara. Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare ronzio. L'estate 82, Scirea. Questo paese che se fosse così in ginocchio il leader della sinistra non si permetterebbe di andare a passeggiare a Champagne a St. Moritz. Vabbè dai, l'ho comprato anch'io a Natale un cashmere al bancarelle delle usate a Piazza Mazzini, l'ho pagato 25 euro. Abbiamo voluto usare un'immagine, mi rendo conto, paradossale, ma insomma sta di fatto che in questi giorni in cui si teme per la sorte degli operai Fiat e per i precari dell'università, i leader della sinistra sono a passeggiare a Champagne a St. Moritz insieme ai padroni, il che è assolutamente legittimo, ma a nostro avviso svela anche un po', come dire, l'ipocrisia e la strumentalità di tutte le polemiche. Tutto il neon che attira le zanzare dal buio. Sì che ci andava tutto bene, l'estraio, le barche, le panchine e le stuoie, bastava far l'amore in pace, conto le zanzare mentre fa. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio che non ci metto niente. A me faccio, io faccio, a so come, io mica so comunista così, sa, so comunista così! Ma che felicità! Bene, bene, 19.35, 800 24 00 24. C'è però una notizia clamorosa che viene oggi, viene oggi da Palazzo Chigi, anzi dalla residenza del Presidente del Consiglio ad Arcore. Berlusconi si occuperà cosa di Palazzo Chigi alla fine. Sì, si occuperà in prima persona del salvataggio degli oltre 100 colibrì ospitati nel parco del castello di Miramare di Trieste. Ti rendi conto? Ah, siamo messi bene. Personalmente, cioè, si occuperà. Personalmente, la sorte dei volatili è da alcuni anni a rischio per la perenne mancanza di fondi e in loro favore si sono spesi negli anni diversi esponenti del mondo dello spettacolo, della politica, della scienza e della cultura. Il Premier, secondo quanto riferisce un'agenzia, insieme a Sgarbi, ha chiamato oggi il direttore del Centro Colibri di Trieste e avrebbe garantito un intervento a sostegno dell'istituto. La storia era stata scoperta, o comunque era stata spiegata, dalle iene. Lo sapete che da questi uccellini dipende la vita del pianeta? I colibrì sono gli impollinatori dell'85% degli alberi dell'Amazzonia, ma sono a rischio d'estinzione. Purtroppo la maggior parte di questi uccellini vive in paesi molto poveri, che non sono in grado di finanziare progetti di ripopolamento. Ma per fortuna ci sono paesi ricchi come l'Italia, pronti ad assumersi questo gravoso e prezioso incarico. Nel novembre 2005 il Ministero dell'Ambiente del precedente governo... Io conto le zanzare. Cosa è successo? È successo che alcuni esponenti del governo vanno in Perù a prendere questi colibrì, vengono accolti in pompa magna, c'è il ministro Matteoli, poi a un certo punto va, quando era ministro dell'ambiente, il sottosegretario Menia, che adesso in Futuro è Libertà. Guarda come viene accolto, senti come viene accolto Menia. A questo punto l'onorevole Menia, a nome del ministro, si reca in Perù e viene accolto con tutti gli onori. Quando scende dall'aereo, una ragazza peruviana gli regala i fiori. Benvenuto. Al suo passaggio lungo le strade, la popolazione lo saluta sventolando le bandierine dell'Italia. Roberto Menia. Un gruppo di nativi lo festeggia. Io conto le zanzare. La storia è incredibile. A un certo punto questi colibrì arrivano a Trieste, ma non ci sono i soldi. A un certo però ma finiscono gli uccelli al governo. No, noi li prendiamo, dopodiché non mettiamo i soldi per mantenerli, e dunque questo centro era in difficoltà. E a questo punto c'è l'intervento del Presidente del Consiglio. Però la notizia in realtà è un'altra, non è l'interessamento di Berlusconi per questi colibrì. Per gli uccelli. Per gli uccelli. Per gli uccelli, quelli veri, cioè nel senso quelli. Per gli uccelli, sono uccelli velocissimi, peraltro. La promessa di Berlusconi riaccende qualche speranza, dunque, per i famosi colibrì. L'intervento di Berlusconi è, come dire, salutato da un personaggio con grande, come dire, con grande contentezza, da un personaggio che è un fiero oppositore di Berlusconi. Margherita Hack, buonasera! Dottor Cruciani, buonasera a lei, buonasera a tutti. Buonasera, signora Hack, ma è vero che lei vuole baciare il cavaliere, addirittura abbracciarlo, baciarlo per questa decisione di aiutare i colibrì del centro Miramare di Trieste a sopravvivere, dunque l'Amazzonia e tutte queste cose belle? Beh, lei sa, sono sempre stata una grande, così sono stata molto critica nei confronti del Premier. Questa volta sono in effetti disposta a baciarlo, sono disposta ad abbracciarlo, pur non condividendo la sua politica, però l'importante è che in effetti si salvino questi uccelli. Tant'è vero che Berlusconi evidentemente di uccelli di questo tipo se ne intende molto, visto che anche nella sua villa di Antigua mi risulta che ne ha alcuni esemplari. Cioè, scusi, l'importante, perché portare alla morte degli animali, a maggior ragione se questi sono anche protetti, sono specie protette, il reato punibile e perseguibile penalmente, come lei pensa. Senta, però, speriamo che... Signora Hack, le voglio chiedere una cosa, ma a parte baciare il cavaliere, adesso non so se certo, poi non so se poi cavaliere gradirà, insomma, questa cosa qua, insomma, è un bacio. Lei vuole, intende, ma un bacio virtuale? Altre abitudini, però. Sì, no, più che altro altri gusti magari. La questione del bacio è una cosa virtuale, così lei lo vuole baciare così virtualmente, oppure pensa davvero di avvicinarsi a Berlusconi e dargli un bacio in fronte e dire grazie per aver salvato i colibrì? Forse baciandolo è la volta buona che resta stecchito. Sto scherzando, naturalmente. Sono, ripeto, caro Cruciani, mi sono stupita e sono profondamente soddisfatta del fatto che il Presidente del Consiglio dell'Italia sia propenso ad aiutare questi poveri uccelli, questi volatili, che non solo sono importanti da un punto di vista biologico, sono importanti come tutti gli esseri viventi su questa terra, ed è giusto che noi ci si pensi. Questo l'abbiamo capito. Però la cosa che voglio capire, signora... Clamoroso, Sì, sì, no, la cosa che voglio capire, clamoroso, signora... che la... Se la professoressa, se volete, vengo e bacio, abbraccio pure voi. No, quello si può anche soprassedere su questa cosa qui, no, signora Hack, per carità. Sì, anch'io rinuncio volentieri, ma da un abbraccio fortissimo. Sì, un abbraccio molto forte, eccetera, per carità. Però voglio capire da lei, Berlusconi, lei ha detto prima dei colibrì, degli uccelli, anche nella sua villa in Antigua, degli uccelli di questo. Ma l'hai risaputo, l'ho letto sui giornali, mica sulle abitudini del Premier. Leggo no. Come fate tutti voi e sto sul pezzo, come si suol dire. Ecco, ho capito, ma lei considera Berlusconi una sorta di mostro da battere, una persona, un antidemocratico, il male assoluto, adesso lo vuole baciare, non c'è una piccola contraddizione? Guardi che Berlusconi... Ma la contraddizione, come l'ho spiegato, caro Cruciani, c'è nel senso che... ho sempre contestato la politica di Berlusconi, però... ho sempre detto che è il nano dei capelli colorati, ma al di là di questo devo dire che il nano è un'iniziativa sicuramente meritevole, e quando si fanno iniziative meritevoli io sono sempre dalla parte del giusto, e quindi mi sembra importantissimo, perché far morire dei poveri uccellini che nulla hanno fatto di male a nessuno, certo. E ripeto, far morire degli animali così è penalmente perseguibile, sì, e quindi qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna fare. Non, c'è non se ne cura nessuno, no. E mi ha stupito appunto l'atteggiamento del... Vabbè, non è che Berlusconi sia una persona così insensibile, eccetera. Una cosa pazzesca. Ma diciamo, ripeto, certe cose sono state fatte, non è che mi piacciono molto, ma vogliamo soprassedere almeno quest'oggi che l'ha fatto almeno una cosa buona. Eh beh, certo, e certo, allora certo. Baciamolo e abbracciamolo. Baciamolo e abbracciamolo, e perché no? Baciamolo. Baciamoci, abbracciamoci gli uccelli tutti. Mettono d'accordo Berlusconi e la professoressa. Gli uccelli, i colibrì mettono d'accordo la professoressa Hack, l'astrofisica Hack, come avete sentito, e Silvio Berlusconi. Allora, abbiamo ricevuto notizie anche qui clamorose, oltre ai colibrì, e ci vengono da St. Moritz, caro Parenzo, sì. Ci riferiscono che D'Alema era ospite presso un albergo che si chiama Suvretta. È stato incontrato nella hall da persone, ascoltatori della Zanzara, ascoltatori fedelissimi della Zanzara, Hotel Suvretta. Adesso andiamo a vedere quante stelle, che tipo di albergo è. Noi siamo ma era ospite in attenti che senso? A quando dice ospite, no, ospite nel senso che si è pagato le stanze da solo, immagino. Ah, ecco. No, perché c'è gradito ospite di un imprenditore, di un amico. No, ma come gradito ospite? Si sarà pagato la vacanza da solo a St. Moritz. Ci sarebbe nulla di male però essere ospite di qualcuno. Ma no, ma assolutamente no, figuriamoci. Ma poi non c'è niente di male andare a St. Moritz. Basta che poi non si dica l'Italia alla fame, allo stremo. Come forze, no? Ma cioè... si può dire benissimo, perché il PD non è che non è il partito degli operai, non è Ferrando. Ma certo, il PD ha candidato Colaninno, cioè un imprenditore. Ti pare che possa non può andare a St. Moritz? Vabbè, cioè, ci può andare Colaninno a St. Moritz, che magari neanche ci va, e non ci può andare D'Alema, non ho capito. Va bene, così. Stefano da Milano, ma non è così, su, non è e così. E c'è delle regole, ma che discorso sì, è? Però sarebbe stata una cosa un po' più, voglio dire, se uno deve dare un consiglio d'immagine a D'Alema, perché non vai a Pescasseroli, come ma diceva? Scusami, ma allora fa meno, scusami però, fa più effetto, a me fa più effetto vedere Tremonti che mangia in una batta di montagna a Calalzo di Cadore, con a fianco un banchiere come Ponzellini, e invece quella foto della cena degli ossi è passata come la destra vicina al popolo che mangia in osteria gli ossi con un banchiere. Beh, cioè, sì, se dobbiamo fermarci all'iconografia delle cose, sì. È chiaro che sembra che Tremonti, il nemico delle banche, con a fianco un banchiere, mangia degli ossi in una taverna che non conosce nessuno, mentre l'altro snob va a St. Moritz, ma non può essere così la lettura delle cose. Ma no, ma questa è una lettura chiaramente polemica, provocatoria, eccetera, eccetera. Però io non ne posso più di sentire. Ma questo vale per la destra quando è all'opposizione e per la sinistra quando è all'opposizione. Di sentire le persone che fanno un certo tipo di vita e poi dicono che la gente è allo stremo, che l'Italia è allo stremo, che la gente non arriva. Lui non ha mica rubato, lui ha guadagnato quei soldi. No, ma non soldi, c'è un po' di comprensione. Può andare in un albergo sì, a 4 stelle, certo, 5 stelle, ma nessuno lo mette in. Non è mica andato nelle isole Figi o in un anche se fosse fiscale, andato alle isole Figi. Comunque no, in un paradiso fiscale. No, Stefano da Milano, Stefano. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Intanto sto rientrando a Milano da un viaggio. Abito vicino a Milano. Sì. E io chiamo perché sono uno di quelli che il Presidente del Consiglio chiamerebbe comunisti, anche se poi dal punto di vista. In che senso? Del termine, fa il giudice? So. Come? Fa il giudice lei? No, assolutamente no. Non è che chiama comunisti, che, non è che chiama comunisti tutti quelli che votano per partiti che non sono il suo, Si chiama no, anche più o meno, lui giudica comunisti chiunque sia contro di lui. Ma no, ma non è così. Contrario al suo questo non è vero. Una volta disse coglioni riferito a quelli che non votavano per a quelli che votavano per la sinistra, ma quello è un altro discorso. Sì, appunto. Io chiamo comunque principalmente per quest'altro motivo. Ho sentito l'intervento di Luca Zaia, sì, che tra l'altro considero un rappresentante abbastanza illuminato anche. Addirittura illuminato. Sì, assolutamente. Vabbè. Rispetto alla media del centrodestra, su molte persone del centrodestra non condivido alcune opinioni, su Zaia, sì, devo dire che il mio parere è positivo. Allora, non capisco perché però Zaia debba continuare a giustificare il fatto che sia andato a cena in un ristorante cinese, dovendo puntualizzare. Ma infatti non ha giustificato nulla, sono gli imprenditori, alcuni ristoratori padovani che lo hanno chiamato in causa, non è che lui ha detto sono andato là e mi giustifico. Cioè, no, ma non è il fatto della giustificazione, Crociani, è il fatto che Zaia continuava a puntualizzare sul fatto che non si trattava dell'ultimo dell'anno, che non si trattava di Padova, che si trattava di un ristoratore che ha la licenza da 10 anni e tra l'altro si rifornirebbe di prodotti tipici veneti. Sì, no, quella la seconda parte. Questo corollario, perché sì, sì. Non ci sarebbe niente di male se lui fosse andato anche all'ultimo dell'anno a Padova da un magari un cinese che importa anche prodotti dalla Cina, ma controllati, cioè chiaramente. No, certo, Stefano, lei ha ragione. Lei ha ragione. Il punto è che, siccome nella lettera di questi ristoratori padovani c'era scritto che era Capodanno, che era Padova, anzi Cadone, eccetera, eccetera, lui voleva puntualizzare questo: che non era il 31, ma era il primo dell'anno, il primo sera, ma non cambia nulla, e che non era in provincia di Padova, ma era in città a Treviso, e che conosceva da tanti anni quella persona, quel ristoratore. E questo è effettivamente una cosa che si poteva risparmiare, perché uno può anche andare in un posto che non conosce, cinese, con prodotti cinesi, eccetera, eccetera. Però lui voleva rimarcare il fatto che i prodotti, secondo lui, erano della terra, cioè i prodotti comunque trevigiani o veneti, il ristoratore mezzo italiano, eccetera, eccetera. Insomma, non è andato da un cinese doc, questo voleva farci capire. E poi l'altra cosa è che e quando dice erano tutti chiusi, adesso vorrei fare un sondaggio a Treviso, io credo che il primo gennaio la sera qualche cosa di aperto non cinese si trova, insomma, che dici tu che sei di quelle parti? Sì, no, sembrava un po' un'escusatio non petita, no? Quindi un po' un arrampicarsi, perché lui però francamente ha detto sì, io quello lo conosco da 10 anni, sono andato anche 5 anni fa, un po' strano l'involtino primavera con i prodotti tipici locali, perché se no non no è, ma c'è qualcuno primavera. Assolutamente ci sono invece ristoranti cinesi che utilizzano magari delle verdure locali, ma insomma ci sono tanti, ormai la ristorazione cinese si è un po' evoluta anche in Italia, non ci sono i soliti ristoranti, ci sono tantissime varianti. Vabbè, Stefano, insomma, come voleva, mi scusi? No, come voleva concludere, se voleva concludere. No, appunto volevo concludere il fatto che l'intervento sarebbe potuto essere davvero migliore se non fosse caduto in questa sorta di provincialismo. Uno può essere leghista assolutamente senza essere provinciale, invece queste precisazioni che ha fatto le ha fatto diventare un leghista provinciale, tutto qua. Va bene, grazie. Marcello da Bologna, buonasera. Salve, volevo intervenire a proposito del caso Battisti. Sì. Cioè, secondo me, se devo dire la mia, al governo Berlusconi fa piacere che Battisti sia stato fuori, perché ha avuto comunque sia sui media un grandissimo risalto, perché ha fatto parlare le sinistre estreme che hanno detto cose che l'opinione pubblica non condivide la maggior parte, e lui ha mandato i suoi a manifestare davanti all'ambasciata brasiliana e è riuscita ad avere un sacco di consenso. E poi comunque c'è, secondo me Battisti in Italia è un pericolo. Per chi? Perché per esempio, secondo me, io mi vedo già l'inchiesta di Santoro che va a vedere dove è Battisti, dove è stato incarcerato, le condizioni delle carceri in Italia. Poi magari dopo 10 anni i magistrati italiani che conosciamo bene, dai, che sono un po' faciloni, lo mandano in libertà. E così, no, guardi Marcello, su alcune cose posso essere anche d'accordo, cioè sul fatto che Battisti in Italia può essere considerato nelle carceri italiane, qualcuno la può considerare una rogna per le cose che può dire, per i rapporti con la Francia. Tanto lo svolano subito, dopo 5 anni. Sì, però adesso voglio dire, non so, sono intuizioni queste cose qui. Lei dice, c'è una frase di Berlusconi riportata da alcuni giornali e non smentita, devo dire, anzi forse sì, il giorno dopo ci fu un comunicato della Presidenza del Consiglio, riportata da Repubblica, un giorno in cui Berlusconi, durante alla fine di un colloquio con Lula, avrebbe detto, ma insomma... se lo tengano pure, perché dobbiamo far pagare, no? Perché la prigionia deve essere pagata dai contribuenti italiani, un personaggio orrendo, eccetera, eccetera. Insomma, sì, la sensazione... su D'Alema non ci vedo nulla di male, perché se Prodi, qua io sono a Bologna, dietro a casa mia, ha una casa di 300 metri quadri che vale 2 milioni di euro. Quindi lo sappiamo che c'hanno i soldi questi ben pensanti di sinistra. Non è che scopriamo l'acqua calda. Bene, grazie, grazie. Dove andiamo? Fabio da Roma, buonasera. Pronto? Buonasera, dica pure. Buonasera. Ma io vorrei intervenire sulla polemica di D'Alema. Beh, intervengo da sinistra, nel senso che non so quanto possa oggi, ma mi definirei comunista, nel senso che... Cioè lei si considera comunista? Sì, sì, tant'an, credo che la proprietà sia un furto, eccetera, eccetera. Vabbè. Allora, io scusi, ritengo... lei è proprietario di qualcosa, Fabio? No. No, non è, è in affitto, quindi non è proprietario di nulla, cioè di qualcosa, di qualcosa, la macchina ce l'ha. No. La macchina non ce l'ha. La macchina, ma credo che questo non sia un problema. Vabbè, però è un furto, allora, pure quello, dato che considera la proprietà un furto, scusi. No, vabbè. Come va bene? Non considera la proprietà. No, io vorrei... no, questo è troppo spicciolo. Io vorrei. No, ho capito. Un po' più sul... No, per carità, ma va tutto bene. Cioè, capisco. No, se vogliamo, no, cioè, giochiamo con le frasi. Allora, D'Alema, io ritengo che nella misura in cui si pretende dignità e buon gusto dal Presidente del Consiglio e per le sue frequentazioni, ritengo che un leader di sinistra debba avere dignità e buon gusto, e quindi è giusto. Buonasera. Un attimo me. Solo, buonasera, buonasera. Prego. C'è il signor Marco? Signor Marco, dovrebbe essere nell'altro ristorante a Cadoneghe. Ah, a Cadoneghe, ci siamo sbagliati. Vuole chiamare il ristorante, vuole il numero? Sì, ci dia il numero. Allora, 049. Sì. 88. Sì. 766. Sì. 18. Allora è a Cadoneghe. Sì, dovrebbe essere a Cadoneghe, in caso lì c'è la moglie. Nel caso lì a Cadoneghe c'è la moglie, è no? È a Mugem. Sì, sì. Signor Marco, come si chiama esattamente il signor Marco in cinese? Uli Suan. Com'è? Uli Suan. Uli Suan. Li Suan, Li Suan. Va bene, grazie. Va bene, grazie. Grazie. Vabbè, collegamento con il ristorante Wok Sushi di Treviso, che in realtà abbiamo sentito il signor Marco, leghista, nonché amico di Zaia, e nell'altro ristorante, quello di Cadoneghe, provincia di Padova. Adesso fra poco chiameremo, no? Anzi, siamo già in collegamento, sentiamo. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, cercavo il signor Marco. Cosa? Cercavo il signor Marco. Marco? Marco, sì, proprietario. Ma non c'è Marco, c'è Maria. Maria chi è, la moglie? Cosa? È la moglie, la signora Maria? Non c'è Marco. Non c'è Marco? No. Vabbè. È qualcosa da... è bisogno? Sì, ho bisogno di parlare qui, Radio 24, il Sole 24 Ore. Volevamo parlare con il signor Marco per la storia del governatore Zaia. Non sento bene, perché qua c'è musica. Come c'è musica? No, un po' c'è il mattino primavera, no? Musica. Vabbè, comunque, chiameremo il signor Marco, il proprietario di questo ristorante, giusto? Poi chiamare. Vabbè, adesso richiamiamo, che... sì, è un casino. 1953 800 24 0024. Poca Padania lì, poca Padania. Beh, insomma, non mi sembra grande Padania, insomma. Dove eravamo? Il signor Fabio da Roma, prego. Quindi niente, questa era la mia testimonianza. Poi riguardo al comunista, la macchina, eccetera, nel senso, un ideale, diciamo, può anche presupporre un'automobile, insomma. Essere comunisti oggi non è che significa avere un ideale, quindi non ci trovo niente di scandaloso, anche possedendo un'automobile. Dopodiché io mi sarei stupito però più di Nichi Vendola, ecco, di un personaggio che di D'Alema mi stupisco fino a un certo punto, cioè le posizioni di D'Alema politicamente sono distanti, credo, dal movimento operaio, quindi va benissimo dove sta, cioè non c'è problema. Ho capito. Però ecco, ritengo che sia così. Ho una capito, questione di buon gusto. Va bene. Dunque, una volta tanto ha ragione il direttore di che? Di Libero, come si chiama? Del giornale. Vabbè. Li confondo, vabbè. I due. Va bene, grazie. Simone, provincia di Pavia, buonasera. Buonasera, mi fa piacere finalmente intervenire nella trasmissione dopo tanto tempo che la seguo. Il mio pensiero è questo: secondo me Zaia ha scelto una politica giusta, quella di difendere il prodotto, chiamiamolo nostrano, anche attraverso la via di altre ristorazioni che possono essere anche internazionali. Un ristorante cinese sicuramente deve proporre un prodotto cinese, ma se utilizza effettivamente dei prodotti italiani la cosa non mi dispiace. E secondo me potrebbe anche essere una buona idea, magari per il ristoratore, la lancio lì, magari anche gli arabi, il kebab, se utilizzassero magari dei prodotti italiani, perché non andare a mangiare anche nei loro ristoranti? Io sinceramente la trovo una discreta cucina. Mi sente? La sento, Simone. Ah, ok, scusate, sono in autostrada e prende poco. Sì, però adesso voglio dire che uno voglia fare passare la frequentazione di un ristorante cinese anche solo per una volta come una difesa del prodotto italiano, questo è francamente ridicolo. Che poi ci sia una contraddizione, come ho fatto notare Zaia, certo, per il fatto di essere un difensore anche a spada tratta del Made in Italy contro dell'autarchia anche nell'alimentazione, nella ristorazione, e il fatto che più volte se ne è uscito contro i prodotti cinesi stessi, dicendo non sono mai mangiato un involtino prima in vita mia, e il fatto che poi sia stato pizzicato in un ristorante cinese, insomma, la contraddizione c'è tutta. Sarebbe stato più coerente, avesse detto: guardate, preso da fervore politico o altra cosa, in quel momento ho detto una stupidaggine, sicuramente avremmo apprezzato tutti di più. Però l'idea che, tra virgolette, si possa far passare anche l'integrazione, chiamiamola così, attraverso la cucina, non è una cattiva idea, effettivamente. Ma no, vabbè, adesso non parliamo di cose insomma, che vanno al di là della discussione, certo. Il fatto che i ristoranti cinesi possano convivere tranquillamente con la cucina italiana, cosa che è abbastanza ovvia. Grazie Simone. Fabrizio da Milano, buonasera. Sì, buonasera signor Cruciani. Pronto? Dica. Sì, ecco, niente, un'osservazione, una piccola osservazione sull'ultima affermazione del Presidente del Consiglio, il signor Berlusconi. Sì. Questo odio viscerale continuo verso i comunisti. Una piccola riflessione su questo. Innanzitutto la nostra Costituzione repubblicana è figlio del pensiero cattolico, laico, comunista, repubblicano, quindi è sostanzialmente il condensato di una serie di culture e politiche diverse che si sono riconosciute nella Costituzione, sono tutte di pari dignità. Ma poi la contraddizione che ritrovo è sul fatto che da una parte ha quest'odio il nostro Presidente del Consiglio viscerale verso i comunisti, dall'altro va a braccetto col suo amico Putin che fino a prova contraria è stato per 20 anni direttore dei servizi segreti dell'allora Unione Sovietica. Per cui veramente è ora di smetterla, è ora che lui la smetta con queste osservazioni inutili e infondate, perché voglio dire, la Costituzione repubblicana, fino a prova contraria, i comunisti in Italia hanno comunque mantenuto e contribuito alla democrazia di questo paese. Ma al di là di questo, certamente un'altra critica che si può fare a questo uscito. Finisco, ma ho capito sul ruolo dei comunisti, adesso non è che dobbiamo ricordare il ruolo dei comunisti italiani nella democrazia di questo paese. Altrimenti facciamo un film, Fabrizio, o no? Pronto, posso finire il mio pensiero? Sì, prego, dica. E secondariamente? È davvero disdicevole il suo atteggiamento, che sostanzialmente da una parte predica bene e poi razzona male. Su che cosa? Su che cosa? Sul fatto che comunque sembra che praticamente consideri praticamente chi ha un pensiero di origine marxista come la peste, e poi sostanzialmente si va a braccetto con un uomo che è stato direttore del KGB per anni e che ha sulla coscienza, non dico decine di persone, ma forse di più di decine di persone. Va bene, grazie Fabrizio. Basta. Andiamo, titolo del TG1. Il pensiero del Papa per gli ortodossi che celebrano stanotte il Natale, tensione in Egitto, Bagnasco, l'Europa difenda la libertà religiosa. Indagato proprietario della casa di Landriano dove una famiglia è stata uccisa dal monossido di carbonio, le regole per la sicurezza. Resti umani trovati nel bosco, potrebbe essere la donna scomparsa da Ancona 8 mesi fa, il marito riconosce alcuni indumenti. Carburanti alle stelle, malgrado il petrolio costi meno rispetto ai picchi del 2008, prosegue la corsa dei prezzi sotto accusa ai petrolieri. Dolcetti e carbone per grandi e piccini, Befane al lavoro in tutta Italia e c'è chi al posto della scopa ha preso gli sci. Il Milan vince a Cagliari con lo zampino di Cassano ed è campione d'inverno, gol in sospetto fuori gioco, la Roma batte il Catania, tanti errori dell'arbitro, la Juventus crolla col Parma, la follia di Felipe Melo espulso per un calcio in faccia ad un avversario. E insomma ci chiedevamo, ma sti comunisti oramai non sono più un pericolo, non ce ne sono più, perché se D'Alema si fa venire, si fa vedere a St. Moritz pieno di cashmere dalla testa ai piedi, ma ci sono ancora i comunisti, Presidente? Ci sono, esistono, e come? No, no! Ma dove sono andati a finire? Tutti a St. Moritz. Guardi, direttore, non è un cashmere che può cambiare il cervello e il cuore della gente. Beh, i nostri post-comunisti fanno finta di aver abitato su Marte per anni, visto che dicono addirittura di non essere mai stati comunisti. È vero, si sono imborghesiti. Adesso indossano capi firmati, scarpe fatte su misura, a caviare champagne. E come si mette, scuse? Vanno anche alle Maldive in vacanza, hanno la barca a vela. Io Beppe Grillo, Presidente, l'ho incontrato quest'estate per l'aperitivo all'hotel Pitrizza di Porto Cervo. Santoro si veste da Armani, io non ci capisco più niente. Signor Versace, ha capito che succede in Italia? Sì, ho sentito. Ha sentito, quello era Signorini che duettava con Berlusconi. Sì, l'ho sentito. Armani si veste, non Versace, ha detto. Vabbè, comunque. Non è un problema. Ma c'è qualcuno che veste Versace anche in Parlamento? Ma c'è tanta gente che veste Versace in Parlamento. Sì? Anche a sinistra? Anche a sinistra? Da tutte le parti. Anche a sinistra, dunque, vestono anche Versace in Parlamento, senta, ma buongiorno innanzitutto e buona Befana. Buona Befana a tutti quanti. Senta, sempre ma sempre mezzanotte lì, Sì, è lì, sempre tardi. Com'è stata la sua giornata tipo oggi? L'altro giorno quanti chili di pesce? Una decina di chili di pesce, 30, quanti erano? No, l'altro giorno abbiamo pescato diversi chili, ne abbiamo pescati anche ieri. Anche ieri? Sì, anche ieri siamo andati a pesca, quindi molto bene. Oggi? Giornata molto tranquilla, molto pagata, tanto ormai siamo agli sgoccioli, ci tocca rientrare. Certo. E quindi stiamo troppo di immagazzinare energia e sole. Certo. Senta, ma D'Alema a St. Moritz la stupisce? Beh, no, lei sta alle Maldive. No, non mi stupisce per niente. No. Non mi stupisce più niente ormai. Ma ormai nel senso polemico, nel senso, no, nel senso positivo, che praticamente, cioè, meglio è positivo che sia andato a St. Moritz. Penso di sì, anche che sia molto positivo, a parte che sei una persona estremamente intelligente, quindi anche se non ci va lo sa. Ma secondo lei, come dicono alcuni, soprattutto a destra, sa, molto perfidi, che dicono predica bene e razzola male, ma è vero secondo lei oppure non c'è contraddizione? Ma questo si può dire per quanto riguarda la sinistra, sotto certi aspetti si può dire molto bene, ma si può dire per tutti i fronti, questo del fra il predicare e il razzolare c'è per tutti. E D'Alema che va, dunque lei le foto di D'Alema che col cashmere a St. Moritz, tutto normale, non la stupisce più di tanto? No, non mi stupisce più di tanto, perché vive in un paese, D'Alema è nato in Italia, un paese moderno, uno dei paesi più industrializzati del mondo, un paese all'avanguardia per la creatività e per la moda, e quindi è giusto che un leader politico come D'Alema rispetti lo stile di vita del paese. Però uno può dire che l'Italia non arriva alla quarta settimana, è un disastro, un inferno, i lavoratori. No, questa è l'esagerazione di chi sta. Cioè, qui in Italia c'è un problema serio: chi sta all'opposizione criminalizza ogni cosa e moltiplica qualunque situazione. Anche il centrodestra quando è all'opposizione. Basta sentir Di Pietro in particolare, sembra che praticamente noi siamo qui veramente oltre la frutta, oltre l'ammazza caffè, cosa che non è vera, in quanto il paese, la crisi l'abbiamo sentita tutti, ha sentita anche l'Italia, ma il paese è sano. Ma senta, lì il tempo com'è alle Maldive? Il tempo alle Maldive è splendido. Oggi è stato splendido, pure oggi. Magnifico. Tutti i giorni sono stati bene. Sempre senza scarpe, sulla spiaggia. Sempre senza scarpe, sulla spiaggia, anche adesso, no? Giusto? No, adesso è notte fonda. Appunto, però. Che meraviglia. C'è silenzio, no? Silenzio. Sì, assolutamente. Ballerine ci sono belle? Ancora queste ballerine, non ci sono. Voi all'Italia. Non ci sono, Parenzo, le ballerine. Ma io immagino sei fissato con queste ballerine. Bianca e le ballerine che ballano, scusa. Sei fissato con queste ballerine, ma insomma, la sua giornata tipo Versace alle Maldive, qual è stata? Me la descriva. A che ora si sveglia lei? Camminare, prendere il sole, fare tanti bagni, nuotare, fare sport. Fare quello che si fa in vacanza. A che ora si alza lei la mattina? Con molta tranquillità. Sono con la mia compagna, come le dicevo la volta scorsa. Ma a che ora si alza? La mattina alle 7 sono già in montagna. Addirittura alle 7, è un incubo. Ma sì, è bellissimo, allora. Perché la mattina c'è il sole, per vedere l'alba, vedere la natura, poi il mare è molto calmo la mattina. Poi è una natura bellissima, siccome a me mancano abbiamo finito con le vacanze, quindi chiaramente si cerca di godersi fino in fondo la natura. Certo. Poi sveglia così, qualche sport acquatico che fa? No, assolutamente. Perché... No. Quello che si fa al mare. Quello che si fa al mare. La maniera più intelligente. Certo. Ma lei a St. Moritz c'è mai stato? A St. Moritz ci sono stato tante volte. Basta, ormai è roba... anche dei Capodanno e anche dei Natale. È roba da Lema ormai. È roba da cafoni ormai, St. Moritz. No, non usate... No, tutti i posti sono belli e sono brutti. Ognuno di noi ha qualità, le qualità sono dentro di noi, l'equilibrio è dentro di noi. Questo sempre, certo. Non è che è esterno, per cui uno può essere nel posto più raffinato del mondo, essere fuori equilibrio dentro e viceversa. Cioè, su questo... Con la compagnia si sta bene con le persone giuste. Certo, però... Se morde non deve essere una notizia. No, ho capito, però diventa una notizia perché uno vede D'Alema, non se lo immagina a St. Moritz, no? Ma no, io D'Alema me lo immagino in tutti i posti, me lo immagino sulla barca a vela, me lo immagino a St. Moritz, me lo immagino a Porto Cervo piuttosto che a Forte dei Marmi. Anche a Porto Cervo. Poi polemiche anche ci sono state, polemiche, discussioni un po' insomma surreali sul fatto che indossi il cashmere, il maglioncino, ma ormai il cashmere non è mica una roba, lei lo sa bene. 30 euro sulle bancarelle, di tanti prezzi, di tante qualità. Poi il cashmere Versace, certo, è un'altra cosa, quello. Ce l'avete voi il cashmere? In montagna il cashmere, anche d'estate in montagna, 2000 metri di quota. La sera fa sempre freschino. Certo. Noi ne abbiamo tanto di cashmere, tanto. È uno dei materiali più pregiati, quindi lo usiamo molto. Certo. Senta Versace, ma poi la lascio alla notte delle Maldive. Ma... No, tanto c'è da fare alle Maldive la notte. No, ma come no? La notte dovrà dormire, si sveglia alle 7 di mattina, dovrà dormire, signor Versace. Scusi. No, la cosa che con la mia compagna abbiamo tante cose da fare, tante cose da chiacchierare e da discutere. Beh, da discutere, da chiacchierare a mezzanotte e mezza, magari no. No, a quest'ora no, di giorno, durante di la giorno, giornata. Certo. Con molti carissimi amici anche. Certo, senta, per esempio c'è qualcuno che conosciamo, famoso, qualcuno che ci può... No, non faccio... Vabbè, famoso, è uscito mi pare, si può parlare di uno perché si sa che qui alle Maldive che è Eros Ramazzotti. Vabbè, quello si sa. È con lei? È con lei stesso? No, c'è anche Antonio Ricci su questi Antonio Ricci, quindi sì, c'è la notizia. Sì. Ce n'è di persone che sono in vacanza, stanno ripartendo tutti quanti. Certo. Senta, ma un'ultima cosa, ma St. Moritz... Sì. Ci possono andare tutti ormai, non è una, ma non lasciamo perdere D'Alema, non è una roba ormai esclusiva, cioè nel senso ci sono alberghi da 3 stelle, 4 stelle, non è una roba che è diventata, o no? D'Alema può andare in qualunque posto, anche il più esclusivo, è stato presidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri, capo del partito, direttore di giornale, quindi D'Alema ha tutti i numeri per andare in qualunque posto. Una volta pare che qualcuno gli rovinò le scarpe, o comunque, e lui disse... No, non gli rovinò le scarpe nessuno, fu un caso, si trattò di un paio di scarpe fatte a mano, esatto. Una bellissima azienda calabrese che anch'io a volte, sono le uniche scarpe che uso oltre. Ah, lei la sa questa storia allora? Sì. La so perfettamente, sono un'azienda che io aiuto moltissimo, sì. che conosco molto bene. E costavano 1,5 milioni queste scarpe? Ma no, no davvero 1,5 milioni. 1,5 milioni se li vendessero in Monte Napoleone, perché lei sa, come quando le parla di un prodotto di Hermès, di Vuitton o di altre gente. Ma scusi Versace, è lo stesso D'Alema che disse una cosa del genere, mi hai rovinato le scarpe? Ma no, è stato un disguido probabilmente, è questione di zeri, è sbagliato. E quanto costava? Quelle scarpe lì vanno in vendita al pubblico da 400, da 350 euro a 600 euro, però in fabbrica costano molto meno, ma parliamo di euro adesso, quando l'euro è calcolato a 1000, allora costavano molto meno della metà. Comunque se il fornitore se le prende direttamente in fabbrica, in quanto loro in Calabria hanno anche la vendita diretta in fabbrica, se la cava con un terzo del prezzo. Vabbè, caro Versace, le auguro una buona notte alle Maldive. Buonanotte. Grazie anche a voi, buon lavoro. Eccoci, che fa adesso? Ma sono affari suoi, che fa? Sta con la compagna? No, ma così per sapere, beve un bicchiere di vino. Ma no, ma ormai è finita, no Versace? Rientra in camera, che fa? Mica c'è ancora da... Finito. Bicchiere di champagne? Sì, vabbè, ci ha lasciato. Pubblicità. La zanzara. Io conto le zanzare, la noia. Circolare. Beh, i prezzi del Souvret House dove è stato D'Alema a St. Moritz non sono proprio così economici, caro. No. Caro, no. Vai dimmi, a vedere. Dimmi in diretta, dimmi. Non lo so, diretta. Dai 300 in su a notte. E perché non telefoniamo anche all'albergo per sentire se è ancora su, ce lo facciamo passare? No, ma no, non credo sia ancora su. Segreteria particolare per D'Alema, ci chiamo il presidente. Aldo da Roma, Aldo da Roma, buonasera. Aldo. Pronto, sono in linea. Sì. Fino a da quasi un'ora devo dire. Mi scusi. No, ma per carità, no. Dica. Anche che seguirla per radio l'ho seguita dal telefono. Senta una cosa, Cruciani, mi permette una piccola provocazione, visto che lei ne fa tantissime, ma prego. Perché è il suo mestiere, naturalmente. Sì. Ma secondo lei i comunisti come Gramsci dovrebbero essere in galera e poi ammazzati? Ma no, oppure dovrebbero soltanto essere morti di fame? E perché, scusi, sa, lei in questa maniera, blandamente, simpaticamente, da zanzara, lei continua a lavorare a quel plagio collettivo dell'italiano medio, per cui vive... Si vive di barzellette, di pettegolezzi, di corna, di escort e quant'altro. Che cosa c'entra poi i comunisti, come dice il nostro amato presidente, guardate... Lo dice Berlusconi, mica lo dico io, abbia pazienza. Poi dicono, no, l'ha detto anche lui, rimetta quella... No, quella, l'ha detto Berlusconi, non è che l'ho detto io, per cui non è che mi attribuisce... Certamente, allora, lei attribuisce a me... Detto, come ha detto il nostro amato presidente. Ho capito, noi stiamo discutendo in maniera un po' frivola ogni tanto in piccola parte anche un po' seria. In minima parte un po' seria di un po' tanto. Va bene. Lei mi dirà, ma perché siete la trasmissione? Perché bisogna sentire tutte quante le campagne. Lei mi risponda, che cosa dovrebbe fare uno che è comunista? Beh, anzitutto il Presidente del Consiglio dovrebbe sapere, basterebbe incontrarsi un momentino, non so, con Bertinotti. Non è vero che sono tutti scomparsi i comunisti, ce ne sono a milioni. Solo che per una legge truffa non hanno rappresentanza in Parlamento. Adesso fra poco ne sentiamo sentiamo uno di comunista. Non lo so, perché non telefona da Bertinotti? Perché non si legge l'ultimo libro che ha scritto Bertinotti? No, ma l'abbiamo anche avuto ospite qui alla Zanzara, Bertinotti. L'ha avuto ospite, lo so, però cosa ha fatto? Possibile che una persona come Bertinotti, così trasparente, così intellettuale, così coerente, così pulito, allora? Non le abbia lasciato niente? Perché continuate a fare dell'italiano un imbecille? Ma che se non capisco il passaggio, mi scusi, signor Aldo. Il passaggio è questo, ma io gli ho fatto una domanda. Secondo lei i comunisti devono essere ammazzati? Ma no, ma che vuol dire? No, mi pare che uno oggi che si proclama comunista può tranquillamente vivere in questo paese senza andare in galera. Io la ringrazio tanto. Guardi che se i comunisti, e io non sono comunista, se i comunisti possono proclamare oggi, perché questa libertà se la sono guadagnata loro. Va bene, insomma, francamente sono discorsi vecchi quelli che fa. Scusi, ho capito, Aldo, però ringrazio. Secondo me sono discorsi vecchi quelli che fa Berlusconi, ma sono discorsi vecchi anche i suoi, per carità. Ho detto con tutto il rispetto. La ringrazio. Giuliana da Roma, buonasera. Pronto? Sì, dica, signora Giuliana. Eccomi dica. Qua. Allora, dottor Cruciani, io invece vi voglio molto bene, sia a lei che a Parenzo. Bene, grazie. E che ci voleva dopo tutte le... No. Perché avete una maniera ironica, simpatica, intelligente di condurre questa trasmissione. Mi piace molto. Va bene, dica però pure. Ecco, allora io niente, voglio semplicemente dire, al contrario del signore che ha parlato adesso, che a me invece il signor Bertinotti mi fa girare molto quelle cose che io non ho. Intendo dire... Tanto per essere... Quando ho parlato con lei, adesso mi è venuto in mente, quando parlò con lei in quell'intervista che disse che loro erano dei pacifisti, a me vive la faccia del pacifismo. Accidenti, tirano le uova contro il Senato, bloccano le ferrovie impedendo ai lavoratori... Ah, ma lei sta parlando della rivolta degli studenti. Sì, sto parlando della rivolta famosa. A me, ecco, quello mi fa Ma non è che tanto. Bertinotti fosse a favore di quello che è accaduto davanti al Senato. No, perché era un pacifista, ma se secondo lei è pacifismo quello? Ma no, quello no, ma ripeto, Bertinotti non era a favore delle proteste violente contro il Senato, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, però diceva che era un pacifista, e addirittura lui diceva che era un pacifista, no, quelli che sono andati a tirare. Sì, però lui era d'accordo in generale con la protesta degli studenti, non con il blocco. Sì, sul blocco delle ferrovie, dice. Insomma, voglio dire. Vabbè, comunque è sul blocco delle ferrovie col pacifismo. E poi no, e poi c'è anche per il signor D'Alema. A me non me ne frega niente di quello che fa D'Alema, nel senso, può andare a St. Moritz, non mi scandalizzo più di niente. Allora? L'unica cosa che invece mi ha, non dico indignato, perché l'indignazione non mi piace, che mi ha fatto incavolare, è stata l'intervista Parenzo, che gli ha fatto Parenzo. L'intervista durante una... Quando l'hai fatta l'intervista, Parenzo? La 7, sì, Parenzo, quella su Parenzo, che poi fu ripresa dal Libero e dal Giornale. Sì. Perché? Quando lei le disse, beh, ma il popolo sovrano? È vero, bravo, si ricorda tutto, caspita. Se lo ricorda, Parenzo? Come no? Perché gli chiesi, c'era la manifestazione del PD. Del popolo sovrano. E allora perché ci fanno a prendere in giro? Ah, ho capito. Quando D'Alema disse sì, sì. Che cos'è che rispondo? Ho capito, Giuliana, ringrazio. C'era la manifestazione del PD e siccome io avevo fatto questa inchiesta tra il popolo, tra la base, e la base voleva le elezioni anziché il governo tecnico, allora io timidamente dico: scusi presidente, ma qui però il popolo chiede elezioni anticipate, e lei che pensa? E lui, guardandomi con assoluto disprezzo, fa passare 30 secondi, fa salire il suo baffo sorridendo e dice: va bene, diciamo, il popolo è il popolo, diciamo, il popolo urla, strepita, però la politica è un'altra cosa, diciamo. E quindi questa fu la risposta, l'epitaffio del grandissimo umiliato. Scusi presidente, scusi se le faccio notare, questa è una sciocchezza colossale, guardi parenti. Comunque quando gli fai una domanda che non gli piace, ma non mi sembra proprio. Io ad esempio fu memorabile, ti rubo solo 30 secondi perché adesso mi tornano le ultime interviste che fece ad Alema 3 anni fa, lavoravo ancora a Milano e lo vidi a una festa dell'unità, allora perché si chiamava ancora festa dell'unità, allora lo intercettai, c'erano con 4 o 5 colleghi, mi avvicinai timidamente, diciamo, e gli dissi: scusi presidente, posso farle 2 domande? Lui mi guardò e disse: una l'ha già sprecata, la seconda. Grandioso, più umiliato. Traffico, torniamo. Io lo adoro, però, lo adoro. La zanzara. Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare ronzio. L'estate 82, Scirea, le tette di mia zia, da cui vedevo il mare verticale, fra i nei e lei. Siamo qui, David Parenzo dal Granducato di Toscana, Giuseppe Cruciani qui anche nel giorno della Befana, da Via Monterosa a Roma. E abbiamo Alessandro da Padova, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dica. Volevo fare un saluto innanzitutto a tutte le Befane d'Italia, insomma un augurio a tutte le Befane d'Italia, e poi volevo andare agli argomenti della serata. Meglio, Ma io partirei dal governatore Zaia, partirei da lui. Allora, io credo che la libertà sia un diritto di tutti, però quando si è degli uomini pubblici bisogna fare poi anche degli esami di coscienza, nel senso che le affermazioni che facciamo devono poi seguire dei fatti concreti. Ecco, lui aveva dichiarato qualche anno fa, almeno ho sentito dalle testate giornalistiche, che non aveva mai mangiato un involtino primavera. Adesso, pensare che lui vada al ristorante cinese, francamente non me ne frega niente, però pensare che lui porti avanti la crociata di essere capitato per caso e abbia mangiato poi cucina veneta, questo, se mi consente, qualche dubbio ce l'ho. Mentre per quanto riguarda un altro presidente, che non è governatore ma è presidente, il nostro non ho capito presidente se secondo Berlusconi, lei non ho capito se secondo lei Zaia ha sbagliato andare al ristorante cinese. No, non è che abbia sbagliato, secondo me ha sbagliato, essendo uomo pubblico, ad aver detto che non ci sarebbe mai andato che non c'è mai andato. Ah, secondo me ha sbagliato quello, non a esserci andato adesso. Vabbè, Berlusconi? Ma Berlusconi, io su questa cosa qui volevo sentire anche il suo di parere. Allora, secondo me il presidente del Consiglio italiano deve viaggiare con una macchina italiana. Questa è una cosa, la vecchia storia la vecchia storia, però io questa qui che le devo dire, io questa ce l'ho qua. Vabbè, ho capito, però non mi sembra una cosa di strettissima attualità adesso, Alessandro, con tutto il rispetto. Le macchine, il parco macchine della presidenza del Consiglio, adesso non so se ci sia ancora l'Audi o non so quale altra. Però secondo me, quindi questo è un parere. Vabbè, dovrebbe andare, il presidente del Consiglio dovrebbe usare un'Audi italiana, e questa è l'obiezione che vuole fare? Sì, esattamente. Va bene, d'accordo. E poi ho l'ultima, però l'ultima per Marchionne. No, l'ultima non gliela posso, Marchionne, che fa Marchionne? Io ho il busto di Marchionne, attenzione. No, ma io devo dirle una cosa, la cosa che mi chiedo sempre è questa, siccome lui ha sempre questo maglione blu, ecco, la mia domanda è questa, ma è sempre lo stesso o ogni tanto lo cambia il maglione blu? Questa è la domanda che voglio fare al Marchionne. Ho capito, ma lo cambierà, ma Alessandro, adesso insomma, capisco l'ironia, sarà di cashmere, costerà 200-300 euro. Ma non credo, non è no, un di, ma, di maglia, dice, no? Essendo un uomo che lavora 30 ore al giorno, il cashmere, mi dicono, io non ho mai avuto l'onore di avere né giacche, fa sudare, si rovina molto, quindi lui, essendo un uomo che lavora che lavora molto, secondo me non è, beh, non è di casa. Questo comunque, è un buon interrogativo. Allora, voglio chiedere al portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, che si chiama Marco Ferrando. Buonasera, signor Ferrando. Buonasera, buonasera. Come sta? Secondo lei il golfo di Marchionne è di cashmere oppure di maglia di così semplice? Non ho idea, francamente. Ho un'idea più chiara sulle politiche che fa Marchionne contro i lavoratori della Fiat. Poi se indossa il cashmere un altro tipo di maglione, non lo sa. Francamente mi pare, no, non solo non lo so, ma nonostante tutto mi sembra secondario. Ah, diciamo, beh, su questo non c'è dubbio. Sì. Però, signor Ferrando, lei che è trotskista, se non sbaglio? Non c'è dubbio, sono orgoglioso di questo. Certo, lei ha maglioni di cashmere? No, non potrei neanche permettermi, se devo proprio essere sincero. Beh, però, nel senso che, no, ma il cashmere dire, ormai no, si può trovare. Ma nel senso che non, diciamo così, non uso, ecco, mettiamola in questi termini, un classico lavoratore dipendente da 1200 euro. E quindi, lei guadagna 1200 euro? Sì, sì. Quindi senta, diciamo, insomma, se posso risparmiare, risparmio sul cashmere, ecco, mettiamola in questi termini. Ah, bene, certo. Senta, ecco, ma poi, dopodiché, credo che sarebbe invece lecito se tutti potessero avere la possibilità di indossare quello che meglio gradiscono, ma purtroppo questo non c'è, diciamo, l'uguaglianza delle opportunità dal punto di vista delle scelte di abbigliamento. Non c'è su molti altri campi, ma non c'è neanche sulle scelte di abbigliamento. Se tutti potessero comprare il cashmere sarebbe un mondo straordinario, però in realtà in realtà è così, forse perché un mondo più umano, ecco, diciamo, un mondo più naturale, ecco, in cui tutti hanno gli stessi diritti di accesso, come dire, agli agi pubblici. Ma lei la proprietà privata l'abolirebbe? Ma guardi, la proprietà privata della Fiat sicuramente sì, anche perché essendo finanziata coi soldi pubblici, utilizzando questi soldi pubblici che poi sono i soldi di tutti, invece che per ampliare i posti di lavoro o migliorare le condizioni dei lavoratori, per fare politiche di segno opposto. Cioè lei nazionalizzerebbe la Fiat? Mi verrebbe da dire, sarebbe semplicemente un ritorno del mal tolto, cioè nel senso che i cittadini italiani la Fiat l'hanno già comprata. L'hanno già comprata con decenni e decenni di elargizioni pubbliche. La nazionalizzazione sarebbe la restituzione alla società di quello che la società ha già versato a vantaggio dei profitti privati della Fiat. Parenzo, che diciamo su questo? Niente, cade il telefono di Parenzo. Signor Ferrando, però voglio capire da lei una cosa. Oggi D'Alema, che va a St. Moritz e indossa forse anche abiti di cashmere, non lo so, pieno di cashmere, dice Alfonso Signorini, bisogna verificare, è una cosa che la sorprende? No, nel modo più assoluto. D'Alema che va a St. Moritz rientra nel cliché del personaggio. Del resto, un personaggio che gioca a fare il grande statista, anche perché è stato il capo del governo italiano che ha impiegato più direttamente le forze militari nei bombardamenti su Belgrado, e si vanta di questo, perché questo probabilmente è ciò che lo consegnerà alla storia. Può anche permettersi l'agio privato di un cashmere, magari a ricercarlo anche come orpello e status symbol. Ma io più che la polemica con D'Alema perché indossa il cashmere, farei la polemica per il fatto, appunto, che sostiene Marchionne contro gli operai, cioè, per dirla in battuta, che ha scelto il cashmere di Marchionne contro le tute blu degli operai. Ecco, semmai è questa la critica che farei a D'Alema. Poi se va a St. Moritz o non va a St. Moritz, lei mai andato a St. Moritz, signor Ferrando? No, non ho avuto il piacere, ma ci andrebbe volentieri a St. Moritz. Le bellezze della vita credo, appunto, che dovrebbero essere diritto di tutti e quindi sono appetibili da parte di tutti. Senta, guardi, comunque ci sono dei favolosi autobus che io una volta ho preso da Milano che portano nell'Engandina, che costano anche poco e ci sono accessibili anche questa è un'informazione interessante. Assolutamente, guardi che si può andare a St. Moritz, le dico subito, non nell'albergo dove è andato D'Alema, che costa dai 300 euro a notte, almeno così mi dicono, così mi riferiscono, ma si può andare a St. Moritz anche spendendo, diciamo, un centinaio di euro, 90, 80, cioè non è una cosa così inaccessibile. Se questa è un'informazione interessante, io devo dire, più in generale sono un amante degli ambienti di mare, ecco, diciamo, però detto questo, la montagna ha la sua fascinazione, quindi non escludo per il futuro. No, certo, senta, però mi arriva la notizia che la convention del suo partito, che è il Partito Comunista dei Lavoratori, sempre trotskista, bisogna specificare, si tiene in un hotel a 4 stelle. Sì, hotel 4 stelle di Rimini. Di Rimini. In questo periodo. Ho capito, io guardi Sì, ecco, cioè in realtà lo facciamo a Rimini esattamente perché a Roma sarebbe infinitamente più costoso magari in un albergo a 2 stelle. Beh, comunque sempre sul centinaio di euro sarà. I prezzi sono, anzi, la scelta di Rimini è la scelta dei prezzi più stracciati di cui potessimo disporre. Tutti, come CL fate? Come CL spesso va, come CL a Rimini vanno un po' tutti, Parenzo a Rimini a fare i congressi. Tutti, il problema è CL, devo dire, ha altre fonti di introiti a partire dalla compagnia delle opere, tutto il grande business di Formigoni in Lombardia, quindi potrà anche permettersi di più. Noi, per noi Rimini è sicuramente una scelta obbligata per ragioni di cassetta. Perché lei fa schifo Rimini, non ho capito. Tutt'altro, anzi io sono un amante di Fellini e quindi tutti gli ambienti del decadentismo, dell'atmosfera del decadentismo, quindi anzi Rimini mi dà anche delle emozioni positive. Detto questo, l'abbiamo scelta per il congresso, non per Fellini, ma perché si risparmia. Senta Ferrando, adesso la pubblicità, poi torniamo con lei, però mi dà una definizione, un aggettivo per definire Marchionne? Cioè, fosse per lei, dovrebbero andare i carabinieri a casa di Marchionne, che non si sa dov'è, però anche se Svizzera. No, preferirei ci andassero i lavoratori più che i carabinieri. Come i lavoratori a fare cosa? A fare cosa i lavoratori? No, ma perché vedete, col forcone, i lavoratori col forcone. No, ma invece il problema è che mentre Marchionne ha bisogno degli operai, gli operai non hanno bisogno di Marchionne. Beh, come no? Beh, insomma, come no? Ma gli operai possono, quelli che producono possono gestire la produzione attraverso il controllo di una proprietà pubblica. Ambulanza. Marchionne è indispensabile per gli agnelli, diciamo, per la proprietà. Ho capito, ma per tutti, un amministratore delegato, un manager ci vuole, non è che possono comandare i lavoratori, sennò è finito. Ma un consiglio dei lavoratori può delegare appunto dei rappresentanti di questo consiglio che democraticamente decidono di pianificare la produzione di un'azienda. Cioè lei immagina un consiglio dei lavoratori che delega a qualche lavoratore, diciamo il più esperto, un esecutivo di un consiglio di fabbrica, perché no? Ma al contrario, ma lei sa quante aziende in Argentina, diciamo, sono state prese in possesso dei lavoratori dopo il grande crack del 2001 e gestite direttamente dai lavoratori attraverso un piano economico? Sì, piccole aziende magari, piccole aziende. Centinaia e centinaia. Sì, piccole aziende, non la Fiat. Si immagina la Fiat gestita da Cremati, sì, ma qualche problema. Voi avete una visione del mondo per cui è naturale che ci siano, da un lato i capitalisti e dall'altro gli operai. Beh, è naturale che da un lato così. Che ci sia Marchionne che guadagna 5 milioni l'anno e dall'altro è naturale che ci sia un lavoratore spremuto per di più come un limone che guadagna 1200 euro. Cioè, fortunatamente la storia è più creativa, diciamo così, consente altre forme di organizzazione della società. Sono le leggi della natura queste, però è quello che si è affermato in tutto il mondo. È quello che certo, anche la servitù della gleba è durata un sacco di tempo, lo schiavismo addirittura molto di più, peraltro. Va bene, abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito con Marco Ferrando, portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, che è trotskista, e vorremmo capire anche come si articola l'opposizione, diciamo, della sinistra o dell'estrema sinistra in Italia, perché c'è una marea di sigle, c'è un firmamento molto composito anche con rivalità storiche tra vari dirigenti. Borsa. La zanzara. Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare, ronzio, l'estate 82, scirea, le tette di mia zia, da cui vedevo il mare verticale. La vita è un insieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo, il nostro tempo. Noi cresciamo e maturiamo collezionando queste esperienze. Sono queste che poi vanno a definirci. Alcune sono più importanti di altre perché formano il nostro carattere. Ci insegnano la differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La differenza tra il bene e il male. Cosa essere e cosa non essere. Ci insegnano chi vogliamo diventare. In tutto questo, alcune persone, alcune cose si legano a noi in modo spontaneo e inestricabile. Ci sostengono nell'esprimerci e nel realizzarci. Ci legittimano nell'essere autentici e veri. E se significano veramente qualcosa, ispirano il modo in cui il mondo cambia e si evolve. E allora appartengono a tutti noi e a nessuno. La nuova Fiat appartiene a tutti noi. Il pullover che m'hai dato tu. Allora, caro Parenzo, ti spiego, questa è una pubblicità della 500, come sai sono un malato di alcuni blog, in particolare quello di Piovono Rane, del nostro amico Giglioli, il quale oggi fa una polemica con cui io non sono d'accordo a proposito della Fiat di Marchionne, eccetera, eccetera, però è una polemica interessante, una polemica sferzante, una bella polemica. Dice, Tornatore, l'arma dei carabinieri, perché in questo filmato, che non avete naturalmente visto, ma avete sentito, c'è Tornatore, l'arma dei carabinieri, Falcone e Borsellino, addirittura gli scontri di Via De Amicis, Indro Montanelli, insomma la storia d'Italia, per immagini, La Fracci, Sordi, Coppi, Bartali, De Gasperi, Edoardo. Meno di 4 anni fa, scrive Giglioli, si proponeva come il precipitato della storia italiana, un'azienda che appartiene a tutti noi. Oggi, secondo Giglioli, è la multinazionale dei ricatti, o così o andiamo all'estero, senza l'Italia andremo meglio, diceva per esempio Marchionne. Sai, mia cara. E abbiamo annunciato che faremo circa 2 miliardi, più di 2 miliardi di utile operativo nel 2010. Nemmeno un euro di quei 2 miliardi è fatto in Italia. Siamo ancora in perdita. Cioè, lei sta dicendo che volendo Fiat potrebbe fare a meno dell'Italia? Io le sto dicendo che se dovessi togliere quella parte italiana dei risultati, la Fiat farebbe di più. Avrebbe fatto di più l'anno scorso, lo sta facendo adesso. Uno non può gestire delle operazioni in perdita per sempre. E conclude Giglioli che ci abbiano lievissimamente preso per il culo con questa pubblicità. Non è sbagliata come domanda, diciamo. No, beh, le pubblicità poi non è che necessariamente si accoppiano alla strategia aziendale, poi è stata fatta in un certo periodo, poi la Fiat è andata da un'altra parte, magari, insomma, adesso non è che tutto può essere collegato, però la polemica. Sì, però è vero che è un'icona del simbolo che ha per anni ha rappresentato un simbolo italiano. Adesso invece è multinazionale che forse passerà anche di mano, non sarà più italiana, soprattutto non sarà più degli Agnelli, eccetera. Però volevo chiedere al signor Ferrando, che collegamento con noi, del portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori. Vecchia conoscenza, come no, Ferrando, compagno Ferrando. Senta, signor Ferrando, ma lei, quando dice i lavoratori dovrebbero andare a prendere Marchionne, cosa intende? Cioè che, ecco, me lo dica esplicitamente. Lei mi ha suggerito, parlando di mandare i carabinieri a casa di Marchionne. Facciamo appello ai carabinieri contro Marchionne. Noi vorremmo. Ma sta violando la Costituzione? Ma non c'è il minimo dubbio. Non c'è il minimo dubbio. Ma come? C'è qualche discussione ci sarà? Ma no, non c'è proprio il minimo dubbio. Ma pensi un po'. Negli anni 50, dove, come è noto, non intercorrevano buoni rapporti tra gli Agnelli e la FIOM, cioè il principale sindacato dell'industria, dove c'erano reparti confino, dove i comunisti erano mandati nei reparti confino, dove non si poteva entrare con l'unità in tasca perché la Fiat non voleva. Persino allora la FIOM aveva diritto di rappresentanza all'interno delle commissioni interne, e cioè in altri termini era diritto di tutti i lavoratori potersi scegliere la propria rappresentanza sindacale. Lei dice adesso, a lei pare che sia costituzionale il fatto che nelle principali fabbriche italiane, cioè la Fiat, il principale sindacato industriale, e cioè la FIOM, sia privato della rappresentanza. Vabbè, ma questa è una cosa, un termine, tra privati, che certo i che lavoratori della Fiat siano privati del diritto di scelta di una propria rappresentanza. Guardi, il discorso, per il solo fatto che quella rappresentanza non è d'accordo con la proprietà. Il discorso è molto complesso e secondo me non riguarda la Costituzione. Parenzo, volevi intervenire? No, assolutamente, ma perché intanto se fosse vero questo, voglio dire, Napolitano dovrebbe essere il primo ad intervenire, ma infatti non siamo in questo caso, tant'è che la stessa Camusso, segretario della CGIL, dice ci vuole una firma tecnica, quindi ma questa è una contraddizione della Camusso, non si può caricare sulle spalle, infatti la Camusso dovrebbe preoccuparsi, invece che di premere sulla FIOM, per fargli sottoscrivere un qualcosa che oltretutto contraddice gli statuti della CGIL, non solo della FIOM, dovrebbe semmai fare fronte unico con la FIOM, trasformando il 28 gennaio in un vero e proprio sciopero generale. E in uno sciopero generale, non di quelli che non servono a niente, tipo invece quelli di 3-4 ore, quelle cose una tanto, una testimonianza, bloccare le fabbriche, che fanno per quanto? Perdere i soldi senza strappare risultati. Ma quelli alla francese, per intenderci, cioè a oltranza. Alla prova di forza del padronato si risponde con una prova di forza speculare altrettanto radicale. Quelli possono strappare risultati. Fosse per lei, che sciopero ci sarebbe? A oltranza. Uno sciopero di carattere prolungato, sicuramente tutto una cassa di resistenza a sostegno degli scioperanti. Come cassa di resistenza. È un istituto sindacale che esiste in Germania, in Inghilterra, in Francia, non si capisce perché non dovrebbe esiste in Italia, e anzi direi di più, direi che attorno a questa vicenda Fiat dovrebbe svilupparsi un coordinamento nazionale di tutte le aziende in lotta per la difesa del lavoro attraverso un'occupazione operaia delle aziende o che licenziano o che violano i diritti. Scusi Fernando, così si blocca lavoro, già ci sono pochi soldi, già, tutto, si blocca tutta l'Italia, è una cosa pensi un po', invece guadagna, blocchi tutto, è meraviglioso, non guadagni più nessuno, bellissimo. Scusi, Fernando, è un'idea trottista rivoluzionaria. Ma lo sai che, allora, a proposito, siccome voi siete tutte persone, tutte persone di cultura, scioperare, siccome voi siete tutte persone di cultura, quando è stato strappato, per dire, il salario minimo garantito in Francia, oppure, che so, lo statuto dei lavoratori in Italia, Fernando, è stato strappato sul tavolo, diciamo, di qualche pacifica negoziazione sindacale, o è stato strappato per il fatto che, per esempio, in Francia c'è stata l'occupazione delle fabbriche nel maggio 68 di un mese, e in Italia c'è stato l'autunno caldo che è durato praticamente... Ma è un'altra stagione, Fernando, un'altra stagione, perché adesso che sono vincenti i padroni. Fernando, scusi un attimo, i sindacati che hanno firmato quell'articolo, oppure la maggior parte dei lavoratori, la stragrande maggioranza, così sempre, dei lavoratori che approveranno il referendum a Mirafiori, che cosa sono? Traditori del... Sono persone, ma ci mancherebbe altro, sono persone in carne e ossa che sono sottoposte a un ricatto, perché gli si dice o peggiori significativamente le tue condizioni di vita e accetti persino nei fatti di rinunciare all'esercizio pieno del diritto di sciopero, cioè un diritto costituzionale, oppure noi ti mettiamo su una strada perché abbiamo la proprietà e il potere di andare in Serbia o in Polonia, dove i lavoratori riusciamo a ricattarli ancora meglio, magari grazie alle sovvenzioni pubbliche del governo serbo e polacco, e a fargli accettare le condizioni che vogliono accettare. Fernando, ma non è che il contratto che è stato firmato da quei sindacati sia antidemocratico, sia lo schiavismo? Cioè, la gente lavora e guadagna, insomma, mi pare una cosa, cioè, ci sono alcuni cambiamenti negli orari, nelle cose, nella produttività, ma insomma si tratta di cose che al confronto con altri paesi c'è la fine della cassa integrazione, ci sono un sacco di cose positive. Uno dovrebbe essere felice che comunque c'è la, parliamo delle cose positive, c'è la fine della cassa integrazione, perché lei dovrebbe portare in piazza e bloccare un intero paese per dei mesi e la gente non deve lavorare per dei mesi? No, perché c'è lavoro, perché uno offre lavoro, questa è la forma. Delle regole, scusami, Fernando, ti prego. Sei Parenzo? Sì, è Parenzo. Sì, caro, allora, perché sennò perché non ti seguo? Ci conosciamo da una vita. Bene, allora, le regole nel rapporto tra patronato e lavoratori si sviluppano attraverso una contrattazione libera, non sotto l'espressione del ricatto padronale. Ma non ho capito, ma al di là di quello benissimo che uno può interpretare ricatto, non ricatto, c'è lavoro, si offre lavoro, posti di lavoro, si esce dalla cassa integrazione, insomma, sono cose che uno dovrebbe salutare. Esattamente questo è il bastone del ricatto, perché il lavoro non potrebbe... Ma scusa un attimo, oggi c'è, tu me lo insegni, una grande sovrapproduzione internazionale di automobili, ma quelli sono problemi che non dovrebbero riguardare... Oggi vuol dire che c'è un eccesso di lavoro rispetto alle possibilità di assorbimento del mercato. E quindi si dice, siccome l'economia è basata sul profitto, c'è meno lavoro, perché noi ci interessano delle assunzioni solo se fanno profitto. Bene. Ti chiedo, per quale ragione non bisognerebbe impegnarsi a livello europeo, se non internazionale, per una riduzione dell'orario di lavoro che garantisca una ripartizione del lavoro nell'industria automobilistica? C'è meno lavoro? Meno lavoro lo si dà a tutti attraverso una ripartizione razionale, in modo che nessuno sia privato del lavoro. Ma Fernando, queste cose manco in Unione Sovietica le faceva. Ma questo contrasta con gli interessi del profitto. Io dico, questo risponde a un criterio di ragione. Ho capito, ma questo contraddice l'interesse del profitto. Io metto in discussione l'interesse del profitto. Ma questo non manco questo tipo di pianificazione che lei immagina del mondo della produzione dell'automobile, non so dove, in Europa, nell'intero mondo, non so dove, ma non lo facevano non lo facevano nemmeno l'Unione Sovietica, riuscivano a fare. La battaglia per la riduzione dell'orario di lavoro è la storia d'Europa. Vabbè, ho capito, la lotta per l'orario di lavoro a 10 ore e poi a 8 ore è la storia dell'Europa. Ho capito, è la storia della civiltà. Ma siamo in un altro. Il fatto che bisogna allungare l'orario di lavoro, intanto durante la giornata attraverso la riduzione delle pause, poi attraverso la riduzione delle ferie, ma si parla poi di minuti, sono minuti, l'allungamento dell'età lavorativa perché si porta le pensioni a 65-67 forse anni, per lei quante ore della Spagna di Zapatero, ma tutto questo non le sembra un arretramento della civiltà europea? No, a me sembra un avanzamento, però comunque cioè, su questo no, a me pare che si vive fino a 95 anni, vive male, peggio e tanto più irrazionalmente, Ferrando, sì, in una situazione in cui si vuole mandare in pensione un settantenne, si campa di più. Comunque no, voglio concludere con Ferrando con una cosa: secondo lei la settimana ideale di lavoro quanto dovrebbe durare? Ideale, ideale nel suo mondo. Bisogna calcolare il lavoro che c'è ripartito fra tutti. Beh, ho capito. Quindi, vabbè, forse che c'è ripartito fra tutti, in modo che nessuno sia privato del lavoro e che tutti i disoccupati abbiano accesso al lavoro. Ho capito, ma non è così semplice, Ferrando. Io le dico qual è l'orario di lavoro. Un attimo, se no non si capisce niente, Parenzo. Il criterio non è partire dal profitto, ma non è risico, il Ferrando, criterio non è partire dalle esigenze delle persone e capito, dalla razionalità, ma c'è un tanto di lavoro, questo lavoro venga distribuito fra tutti, ma questa roba qui che non c'è l'orario di lavoro sarà la risultante di questo calcolo, ma non è questa roba qui che non, peraltro non veniva applicata manco in Unione Sovietica, non ha questa funzionato, roba qua si chiama pianificazione democratica, appunto, dell'economia, appunto, ma non quella dei burocrati, è fallita, è andata, non di quelli che avevano i villini nel Val Baltico, i negozi speciali, e quelli erano i burocrati che hanno ammazzato i comunisti negli anni 30. Beh, capito, no, ma quelli erano anche loro i comunisti, no, però no, erano comunisti, no, quelli erano stalinismo, quelli erano di Gulag, sono quelli che hanno eliminato invece tutti i dell'ottobre. I trotskisti erano dei sinceri democratici. I trotskisti sono state le vittime di tutto questo, sì, e anche di quelli che facevano poi gli alleati democratici occidentali di Stalin, anche di loro, per carità. Anche dei D'Alema e di tutta la progenie dello stalinismo italiano, appunto. Sono stati vittime anche di loro, per intenderci. Dunque, ci vuole per risolvere i problemi dell'Italia, ci vuole trotskismo, questa è la sostanza. Ci vuole il potere dei lavoratori, un pizzico non di quello trotskismo, di una piccola minoranza di marchioni e banchieri, un ma quello della grande maggioranza della società. Un pizzico di trotskismo? Sì, in cui il potere sia della maggioranza e non di un piccolo numero di azionisti. Ecco, ma un pizzico di trotskismo che significa? Un trotskismo? Il potere del trotskismo è il leninismo, la rivoluzione d'ottobre, il marxismo, non è una famiglia particolare, non è un marchio di setta, è un programma generale. Sì, il programma generale della rivoluzione russa, credo che sia straordinariamente attuale. Straordinariamente proprio. Sì, quello è straordinariamente attuale. Anzi, più vanno avanti i marchionne e più crescerà nella giovane generazione operaia un senso di ribellione che li porterà anche a rispolverare vecchie tradizioni e vecchie memorie. Ci sarà molto da divertirsi nei prossimi decenni della storia europea. L'ha capito il Financial Times, che due giorni fa diceva: andando avanti così l'economia, lo diceva il Financial Times, non i bolscevichi, dice, ritorneremo forse ai rischi o del 48 o del 68, dove si trova, magari sono più lungimiranti loro, ecco, va bene, Hotel Clarion a Rimini. Hotel Clarion a Rimini, benissimo, l'indirizzo subito, l'abbiamo dato. Subito, per cortesia, subito. Grazie Ferrando, buona serata. Arrivederci. Grazie Ferrando. Sta andando, eh. Hotel Clarion a Rimini, lo avverti tu, Parenzo? Eh? Avverti tu? Fate presto, ragazzi, fate presto! C'è un trotskista in libertà. Traffico! La zanzara. Io conto le zanzare. La noia. Siamo qui alle 20:48, quasi in conclusione di questo programma che è passato da Luca Zaia per i ristoratori cinesi frequentati dallo stesso Luca Zaia, e poi si è concluso con Marco Ferrando, leader dei trotskisti italiani, come avete sentito, con tanto di ambulanza annessa, residente Hotel Clarion, per chi non l'avesse capito, per gli infermieri che sono in collegamento con noi, collegamento perenne perché abbiamo un parco di ambulanze pronte per la zanzara. L'indirizzo è facile da trovare, Hotel Clarion. E lì dice di essere un trotskista, dice che c'è la rivoluzione in corso, non lo so, bloccatelo al più presto. Che lo dice anche il Financial Times, vabbè. Non lo so. Mauro da Mantova, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Lei è anche il nulla Parenzo. Eccomi. Il nulla. Tu sei nulla, il nulla. Ha ragione. Nulla. Volevo dire, ma come si fa a pretendere che il nostro premier giri con una macchina italiana? Dove lo mettiamo? Su una 500? Non so, su una Adesso esistono anche macchine della Lancia, insomma. Ma la Lancia era Lancia fino al 74, l'Alfa Romeo fino al 92. Cioè io pronto? Non ho mai avuto una... Sì? Pronto, signor Mauro, un attimo. Signor Marco. Scusi, non sembra bene. Ma ancora? Il signor Marco! Il signor Marco, non c'è, chiamalo cellulare. Mi dia il cellulare. Mi dia il cellulare. Lei chi parla? Sono un giornalista. Ah. Grazie, grazie, grazie, buona serata, arrivederci. Riso cantonese c'è? Ma insomma, non so se hai sentito, è giornalista, sì, 3-3. Ma hai dato il numero in diretta, milioni di persone lo chiameranno. Mauro da Mantova, buonasera. Che meraviglia. Allora, scusi, l'ho già salutata, allora che voleva dire? Dico, come si fa a pretendere che il Premier vada con una macchina italiana? Dove lo mettiamo? Su una Duna, su una Panda, insomma, la macchina... seria, sono solo le tedesche che le fanno, le macchine serie. Vabbè, ma insomma non volevo andare su questo argomento. E gli dicevo, cioè Zaia, ma come fa ad andare in un cinese? Cioè, io non gli darei un cartellino giallo, ne darei due. Come si fa? Cioè, sì? Cinese, un attimo solo, signor Marco? Sì? Buonasera, qui Radio 24, Sole 24 Ore, come sta? Ah, io bene, lei? Buonasera, non c'è male, campiamo, insomma, sopravviviamo anche oggi. Senta, la chiamo qui insieme al signor Parenzo, qui dalla Zanzara. Buonasera. No, vabbè, se non fare il cretino, Parenzo, no, buonasera. Vabbè, cioè. Signor Marco, senta, ma... Marco ci fa. Allora, chiariamo subito una cosa. Lei è il proprietario del ristorante, come si chiama, Wok Sushi? Wok Sushi. Sì, Wok Sushi, ma dove? A Treviso o a Cadoneghe? Abbiamo due fino adesso, prima Preganziol e poi Cadoneghe. Ah, Preganziol e Cadoneghe. Preganziol, provincia di Treviso e poi Cadoneghe. Il signor Zaia, che è suo amico, no? Giusto? Sì. Presidente della Regione Veneto, dove è venuto a mangiare? A Cadoneghe oppure a Preganziol l'altro giorno? A Preganziol, un altro giorno a Preganziol. A Preganziol, il primo di gennaio, giusto? Sì, primo gennaio. Dunque sì. Non il 31. Hanno sbagliato. Allora, giusto, punto a favore di Zaia. Quante volte all'anno viene da lei? Questo perché lui è un mio amico. Ho capito, adesso ci dica la verità, però non ci prende in giro pure lei. Quante volte viene all'anno? Una volta al mese? No. Due volte all'anno, tre, quattro volte all'anno, diciamo la verità. Sì, due o tre volte all'anno. E qui c'è la bugia. Lui ci ha detto: sono venuto la prima volta 5 anni fa, e adesso, dopo 5 anni, sono venuto il 1° gennaio. Caro Zaia, due o tre volte all'anno ci vai a mangiare il cinese o no? Signor Marco, questa... Che gli ha preparato l'altro giorno? Quale? Il 1° gennaio, quando è venuto? Che cosa ha preparato per il signor Zaia? Malissimo, come un cliente normale. No, beh, quello certo. Ma cosa ha mangiato esattamente? Qual è stato il menù? Menù, tutto prodotto italiani. Mangia solo prodotto italiano. Ma perché, scusi, voi non ce l'avete la roba cinese? Perché no, se l'ultimo momento abbiamo il nostro ristorante, abbiamo fatto ricetta cinese, però con tutto prodotto italiani. Ricette cinesi, voi non ho capito, ma voi avete prodotti, ricette cinesi con prodotti italiani, tutti, non avete mai... Tutti, non avete un prodotto cinese? Solo bevande e birra cinese, altri tutto prodotti italiani. Tutto, ma tutto scusi, italiano. Ma non hai neanche le nuvole di drago? Le nuvole di drago? Com'è? Le nuvole di drago. Facciamo nostra cucina, facciamo la platole, facciamo noi. Benissimo, questo qua è... Gelato fritto anche? Gelato fritto pure, gelato? Gelato fritto non facciamo. Non lo fate. Vabbè, comunque, la cosa che volevo chiederle è questa, ma lei è un cinese leghista, giusto? No, sono per chiedere, no, io non c'entro niente politico, perché solo Luca Zaia è mio amico. Zaia, vabbè, ho capito. Non sono leghista, se. No, come che vuol dire? Non è leghista, d'accordo, però siccome è stato scritto sui giornali che lei è comunista, è un elettore della Lega, uno amico di Zaia, eccetera eccetera, no, non è leghista, hanno sbagliato anche qui i giornali. No, tutto l'hanno sbagliato, hanno detto i giornali, hanno scritto il Capodanno, non è vero, è solo per primo gennaio. Dunque il menù qual è stato? Ci dica esattamente il menù adesso, i prodotti italiani abbiamo detto, ma il menù? Menù fisso, pranzo 10,90 e cena 15,90. Cena 15,90. Sì, a memoria 10,90, 15,90. Però Zaia dice di aver parlato. Bevande escluso. Bevande escluso. Dunque alla fine Zaia ha pagato 19 euro, mi sembra, una cosa del genere, no? No, Così ci ha detto a noi, così a noi ha detto che ha pagato 19 euro. Gliel'ha offerto. O non ha pagato Zaia. Ascoltami, questo no. Perché lui è un mio grande amico, hai capito? Vabbè, ma che c'entra? Ma non mica stiamo rivelando chissà che cosa. Ma come l'ha conosciuto Zaia lei, siccome lei dice che è un suo grande amico? Come l'ha conosciuto? Conosciuto tramite il suo amico. Certo che sti cinesi non tiri fuori nulla. Sono educati bene. Appunto. Senta, signor Marco, che lei si chiama Marco, il suo vero nome in cinese qual è? Mi scusi se la... Cognome è Hotel Utine, U. No, ma il suo nome completo cinese com'è? Ah, un po' difficile, lascia stare. Ma meglio, vabbè, lo dica... Uli Suang, beh, non è difficile. No, non è difficilissimo. Senta, vabbè, insomma, che cos'è che piace di più al signor Zaia tra i cibi cinesi? L'involtino, il riso cantonese, che ne so, le alghe, le rane fritte. Qual è la specialità che piace di più al signor Zaia, governatore della regione Veneto? A lui piace un po' di pesce. Pesce. Anche abbiamo fatto per il palato lo spiedino. Pesce misto, anche soiole, anche un po' di scampi. Non so perché io non ho seguito quella sera perché vabbè. Okay. Vabbè, grazie signor Marco. Meraviglioso. Grazie, buonasera. Vedeci. Grazie. Buon lavoro, direttore. Ma è direttore adesso, insomma. Direttore del ristorante. Sì, direttore proprietario del ristorante 20:56 8:00. Come lì, direttore. Sì, direttore. Sì. Fai razzismo, scusa. No, perché? Ma il quartiere Marchesi è direttore del ristorante Quartiero Marchesi, lui sì, è direttore, certo, del WOC. Scusi. Mauro D'Amanto, allora voleva concludere. Io dico che non si può andare a mangiare in un ristorante cinese. Io non ho mai mangiato cinese. Adesso come ci ho provato una volta. Ci ho provato una volta. È stata l'unica volta. E vabbè, questa è de gustibus, sì. Come dire, non disputando est. Bene, allora, dove andiamo? Andiamo Stefano da Roma, però velocissimi perché siamo davvero in conclusione, Stefano. Buonasera. Dica. No, un'osservazione sui cinesi. La polemica su questa roba, i cinesi fanno quasi italiano o meno. Ma qualcuno si pone, diciamo, non il problema, perché non è neanche un problema, ma l'interrogativo a proposito delle centinaia di bisteccherie italiane che fanno bistecche con carne danese e argentina. Ma già. Chi se ne frega, Stefano? Certo, chi se ne frega? Ma chi se ne frega anche dei cinesi, no? Sì, no, ma certo. Ma non è questa la polemica, insomma, la polemica è per alcune frasi pronunciate da Zaia nel corso della sua storia politica di autarchia alimentare, poi pizzicato da un fotografo a un ristorante cinese, la cosa suscita qualche piccolissima riflessione, tanta hilarità e qualche piccolissima polemica. Grazie, ma devo concludere. Alberto da Padova, Franco da provincia di Milano, Silvia da Roma, ci risentiamo se volete domani puntuale 18:30 alla Zanzara. Ciao. Ciao. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa. Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente. La Zanzara.